pomodori. È meglio conservarli in frigo oppure no? Di quanto la temperatura può influire sulle sue qualità organolettiche e nutritive? Un gruppo di ricercatori tedeschi ha studiato come il modo di conservazione dei pomodori maturi possa incidere sul loro sapore e sono arrivati a una conclusione. In frigo o a temperatura ambiente non ci sono differenze per la qualità. Influisce invece molto di più la varietà e il livello di maturazione dell'ortaggio stesso. Tenendo conto della catena di raccolta dai campi alla tavola, insomma, gli studiosi dell'Università di Gottinga non hanno trovato alcuna differenza. La varietà di pomodoro è l'unico fattore più importante. I risultati del loro studio sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Plant Science. I ricercatori si sono affidati sia a un panel sensoriale di esperti che ad analisi chimiche, con l'obiettivo di valutare se, come gusto e proprietà nutrizionali, livelli di carotenoidi e concentrazioni di zucchero, possano essere influenzate dal tipo di conservazione. Il team è partito da un presupposto. Gusto e sapore sono termini ampiamente usati e molto spesso anche come sinonimi. Tuttavia, il gusto si riferisce ai recettori gustativi sulla lingua, dolce, acido, salato, amaro e umami, mentre il sapore è il risultato del gusto, dell'olfatto retronasale, percezione dell'aroma volatile attraverso la bocca, e degli input del trigemino, e può essere ulteriormente potenziato dall'olfatto ortonasale, annusare. Il sapore di pomodoro è una complessa interazione di aromi volatili e gusto, che è influenzata anche da segnali visivi e materici nel cervello. Finora, nei pomodori sono stati trovati oltre 400 diversi composti organici volatili, sebbene solo un piccolo numero contribuisca al caratteristico sapore. Questi volatili sono derivati da numerosi precursori, tra cui acidi grassi, amminoacidi e carotenoidi, mentre altri importanti fattori che contribuiscono alla percezione degli aromi nei pomodori sono gli zuccheri, principalmente fruttosio e glucosio, e gli acidi, principalmente acido citrico e malico. Tuttavia, il background genetico gioca un ruolo importante nella composizione chimica e sensoriale del frutto, così come anche l'enorme influenza della cultivar, che agisce sulla percezione del sapore, e lo stoccaggio. E non solo, anche le condizioni di conservazione possono influire sulla qualità dei frutti di pomodoro. Esistono, specificano gli studiosi, due condizioni di manipolazione comunemente utilizzate per conservare i frutti di pomodoro in casa, in frigorifero, 4-8 gradi Celsius, o a temperatura ambiente, circa 20 gradi Celsius. Per cui nello studio ogni campione è stato conservato per 4 giorni a temperatura ambiente o 4 giorni in frigorifero a 7 gradi Celsius. Ebbene, i risultati hanno smentito alcuni studi precedenti che avevano scoperto che la refrigerazione ha avuto un impatto negativo sul sapore di un pomodoro. Fuori o dentro il frigo, secondo i ricercatori tedeschi, il risultato non cambia. A patto che la conservazione sia a breve termine. È la varietà di pomodoro in particolare che ha un'influenza importante sul sapore. Pertanto, lo sviluppo di nuove varietà con un sapore accattivante può essere un passo verso il miglioramento della qualità del sapore dei pomodori, afferma Larissa Kansky, autrice principale dello studio. E inoltre, più breve è il periodo di conservazione, migliore è per il sapore e gli attributi correlati. Tuttavia, siamo stati in grado di dimostrare che, tenendo conto dell'intera catena post-raccolta, la conservazione a breve termine di pomodori maturi in frigorifero non ha influito il sapore. Conclude il capo del dipartimento, il professor Elke Pavelsic. Fonte: Frontiers in Plant Science. You are listening to Radio Yoga Network. Italian radio that broadcasts in Italian on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork@gmail.com. Letteralmente radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. La radio con tante radio dentro. Maurizio DJ, Studio 0 Ferrara. Renzo, Studio 1 Bologna. Fabio, Studio 2 Enna. Cristina, Studio 3 Firenze. Mauro Boditaru, Studio 4 Sanremo. Bastian Contrario, Ellie The Worst. E Gabriele, Studio 5 Montebaldo. Letteralmente radio by Yoga Network, la radio con tante radio dentro. Scrivici radioyoganetwork@gmail.com. Bentornati a Passeggiando con Happy, terza parte. Siamo di nuovo a Sanremo, nelle alture di Sanremo. Di qua riesco a vedere il punto. In questo momento siamo nel momento più clou del Festival di Sanremo e diciamo che l'attenzione della gente è veramente al massimo, almeno in questa zona qua. È come un secondo Natale. Infatti io penso che sia l'unico centro in Italia almeno in cui le luminarie di Natale continuano almeno sino a febbraio-marzo, se non mi ricordo se sino al Milano-Sanremo oppure terminano con il festival, non mi ricordo bene com'è la cosa. Comunque diciamo che sono ben sfruttate, nel senso che il Natale termina, il Capodanno eccetera, ma le luminarie restano esattamente uguali come prima. Magari hanno modificato qualcosa, perché nella via principale c'è una canzone di Modugno, di Domenico Modugno. Stiamo parlando adesso del 2020, esattamente il febbraio del 2020, adesso mi pare che oggi sia il 7. Quello che sentite sopra è un elicottero che sta facendo le riprese per, come al solito, per il festival, magari facendo vedere il campo golf che è qua di fronte a me e altre cose del genere. Infatti sta, anzi ancora più basso, e verso il centro, dove c'è un po' tutto il carnevale. Diciamo che a me del festival poi interessa poco e non ne voglio assolutamente parlare, perché non mi piace. Cioè, mi piace come manifestazione, perché crea del movimento in città, e ha come seconda cosa anche dal punto di vista del commercio, aiuta moltissimo il Festival di Sanremo in prospettiva, perché poi piano piano ci saranno le persone dalle seconde case che arrivano e hanno così necessità, nel mio campo fioricolo di piantine, di cose di questo genere, e al mercato che c'è di Sanremo appunto il martedì e il sabato io sono presente con un banchetto, un semplicissimo mercato annolario, dove ci sono i produttori, i commercianti eccetera. Io sono un produttore, sono un contadino, e quindi tutto questo a me fa piacere, perché uno, c'è un po' di movimento come città di mare, è veramente un po' sottotono, perché non ci sono come nelle grandi città o comunque o anche soltanto dalla vicina Francia delle prospettive per quello che riguarda i divertimenti, altre cose, a parte qualche discoteca. Un bowling che era un pochino più distante di qua sembra che sia in procinto di chiudere, perché non aveva abbastanza introiti e tutta una parte di questo è già stato venduto. Quindi è tra le province Imperia le più depresse d'Italia. Prima era forse all'ultimo posto, adesso forse è un pochino più alto. Eppure uno dice: ma Sanremo è un posto bellissimo. In effetti sì, Sanremo è un posto bellissimo, però prospettive di lavoro sono zero o quasi, e poi diciamo che non brilla come iniziativa, come tutte le città di provincia. E qui burocrazia e diciamo modo di fare abbastanza tranquillo, molto pigro, come tutte le province, fa andare le cose, non le fa modificare più di tanto. E come per dire, chi ha il denaro si gode la bellezza di questi posti, perché indubbiamente non è per merito, ma semplicemente perché in questo posto qua ci sono, come avevo già detto, delle condizioni meteo abbastanza particolari, per cui c'è assolutamente una capacità di una climatologia veramente che ci aiuta tantissimo, nonostante tutte le modifiche climatiche, tutto il caos che naturalmente è venuto fuori negli ultimi 10 o 20 anni. Comunque quello che c'è da dire è che tutto questo bailame, tutta questa cosa naturalmente a me è molto familiare, perché da bambino, da ragazzo comunque giravo per quando i cantanti si potevano incontrare per strada, salutare, stringere la mano e anche se non c'era la mania del selfie, già questo aiutava tantissimo e non c'erano problemi di sorta. Adesso insomma da diversi anni tutto questo non è possibile. Io mi ricordo ancora Loredana Bertè che è un personaggio molto, molto caratteristico, molto particolare, diciamo, sia come persona che come personaggio. E sapevo che a lei dava fastidio questo, il fatto anche soltanto di avvicinarsi, passava semplicemente per la strada, anche molto velocemente, e io con il telefonino gli ho fatto vedere, come per dire, volevo fare un selfie, e mi ha fulminato con uno sguardo e niente, non mi sono neanche avvicinato, ci mancherebbe, ognuno ha diritto alla sua privacy, a non essere disturbato, perché penso comunque che chi ha in questo mondo sì, uno degli impegni più gravosi è proprio il fatto di dover essere soggetto a bersagliato dal pubblico, perché sei famoso, perché devi avere tutte le varie cose riguardanti l'apparire, non devi parlare male in un modo né male in un altro, devi essere secondo la tendenza, la moda del momento o contro la moda del momento, e tutto questo ne viene di conseguenza che è una cosa veramente stressante. Cioè io sì, avranno un sacco di soldi, questo sicuramente, però diciamo che non è una cosa così facile. Poi naturalmente occorre che di partecipazione, cioè di qualità, ad esempio per i cantanti deve esserci, devono stare attenti ai raffreddori, cioè addirittura quelli più famosi si assicurano, fanno un'assicurazione sulla voce, sulle corde vocali, se succedesse mai un problema riescono a campare nonostante tutto, nonostante che ci sia un problema, quindi una raucedine, un colpo d'aria è una cosa incredibile. Non è solo per i cantanti di opera, che naturalmente questa è una sciagura, ma anche per i cantanti di musica cosiddetta leggera, di pop, anche se i microfoni possono fare miracoli, lo sappiamo benissimo. C'è una persona di questa radio, ciao Gabriele, che mi ha un po' istruito su queste cose particolari che sono relativi agli audio, ai software audio, e veramente si riescono a fare quasi dei miracoli con le tecnologie. Quindi anche il microfono, anche per quello che riguarda l'audio, direttamente così della diretta già si può modificare già qualcosa, e poi naturalmente in post produzione, quando non c'è più il discorso di cane, vieni qua, quando non c'è più il discorso della diretta vera e propria, si possono fare tagli, modifiche e tante altre cose che naturalmente aiutano, abbelliscono il suono, così che un po' come il programma di Photoshop, cioè quello più famoso, quello che magari è più vicino a essere ricordato alla gente, no? Ti photoshoppi, fai sei passato con il software di Photoshop, cioè praticamente ti sei modificato l'immagine come hai voluto tu. E la stessa cosa si può abbellire anche l'audio, naturalmente. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Buon ascolto. Bene, quindi dicevo che per me sono dei ricordi di infanzia, di ragazzo, il fatto del festival. Non me ne importava mai più così tanto, magari sì, forse magari qualche cantante che era simpatico, cioè che si poteva appunto incontrare per strada, che sorrideva, che era disponibile anche a stringere la mano, come ad esempio anche Mike Buongiorno era abbastanza simpatico, nonostante tu lascia stare il gatto, vieni qua. Adesso avete capito che veramente sono a passeggio con un cane. E poi c'erano Claudio Villa, che per quello che ne ho potuto vedere, insomma, anche se aveva la sua corte così particolare, riusciva a... Poi andando più avanti, Zarrillo, Toto Cutugno e poi altri così erano veramente, diciamo, molto, molto alla mano, ecco. E c'è da dire, ecco, che beh, io non me lo ricordo perché forse non ero ancora nato, ma Gianni Morandi e aveva partecipato, mi pare che ha avuto una dispensa dal servizio militare, perché ha dovuto comunque farlo, per poter partecipare al Festival di Sanremo. E ci sono delle foto storiche in cui si vede alla vecchia stazione dei treni di Sanremo questo ragazzino un pochino tutto così giovane, molto giovane, perché aveva 18-19 anni, che era appena arrivato, salutava la gente e diciamo che erano molto più veri, ecco, c'era molto più partecipazione, c'era molto più... Vieni, fermati un attimo qua, vieni qua, dai, oh, bravo, stai ferma lì. C'era molto più così coinvolgimento con il pubblico diretto e tutto è stato modificato da quando naturalmente sono esistiti social, sono esistiti così altri modi di andare verso il pubblico, forse magari più irruenti. Prima c'era molta più educazione nel confronto delle persone, che si è perso nel corso degli anni. Adesso farò la figura del vecchio bisbetico, ma devo dire che probabilmente l'educazione che avevano dato ai genitori eccetera negli anni 60, 70 è molto ma molto ma molto diversa di quello che adesso c'è, perché diciamo che esisteva un rispetto maggiore nei confronti delle istituzioni, del modo di rapportarsi nei confronti della gente, compresi i cantanti, comprese le persone, naturalmente poi c'erano i fuori di testa, quelli che magari gridavano, urlavano, andavano, ma questo è fan, non è diverso come discorso, no? Il portarsi ad essere, certo, un cantante o un personaggio famoso è comunque una persona, però in ogni caso anche con una persona normale non l'assalti, non gli vai incontro in un certo modo, non fai in modo tale che addirittura poi hanno iniziato a esserci le guardie del corpo, che magari c'erano già, ma era tutto molto più semplice, il rapporto era molto, molto diverso tra il cantante o il personaggio famoso e il pubblico stesso, perché appunto c'era molto più educazione, cosa che man mano diventa sempre peggio e addirittura sfocia in episodi veramente assurdi che sono stati anche al Festival di Sanremo, mi ricordo, delle cose che appunto dei fan scatenati andavano contro questi personaggi cercando di strappargli qualcosa ma senza, cioè, potrei capire ancora il periodo dei Beatles, cioè il primo momento diciamo di un certo tipo di rock, di modifica di queste cose, che era un parossismo, ma così per strada a freddo con un personaggio non così importante, o perlomeno che non aveva una grande importanza dal punto di vista così di essere famoso, ha indotto poi pian piano la gente ad avere dei bodyguard. Una volta che sono capitato per caso per strada in cui passava una persona, sì, andiamo, passava una persona abbastanza famosa, addirittura questi bodyguard molto maleducati e molto prepotenti hanno bloccato il traffico come fossero stati della polizia. Io ho fatto rimostranza verso di loro e mi sono stato minacciato, cosa che un attimo dopo è venuto un carabiniere a cui ho detto: ma queste cose qua non si possono fare, e mi ha detto: sì, lo so, però c'è il tizio tale, purtroppo dobbiamo per il momento, per questione di 5 minuti poi si sbriga tutto, perché hanno paura di avere degli assalti, delle cose del genere, cioè così non è più, questo non mi piace più, non è più il Festival di Sanremo. È bello magari per chi è interessato magari vederlo in televisione eccetera, ma a meno che non sei all'interno del, del, quindi diciamo hai il cosiddetto pass, che adesso sfoggiano dappertutto, in qualunque parte di Sanremo, anche nei posti più impensabili, vedi la persona con questo pass, che sembra una medaglia al merito, che poi non c'entra più cosa meriti, solo per il fatto di entrare in un posto riservato dove c'è tantissimo nervosismo, dove c'è dove ci sono persone che pensano a tutto e meno che a, così a socializzare, e l'unico modo di socializzare appunto è fare business con le interviste, e questo è l'unico modo che appunto queste persone hanno di modificare, di vivere in questo modo. Bene, adesso fermiamo un attimo e poi riprendo più tardi. Well, the odds were against us, and so we've been told. We clung to each other and never let go. We believed and believed, and when others gave in, and forever will never be ever again. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Direttamente al cuore. Ecco la continuazione del discorso. Beh, mi ha annoiato abbastanza col Festival di Sanremo, cioè diciamo che la mia narrazione non è proprio, forse magari delle più positive, ma comunque per chi lo ama resta un qualcosa di positivo, e diciamo un appuntamento nel bene e nel male è necessario per ecco, adesso devo fare una cosa che succede quando si porta fuori il cane, cioè prendere il sacchettino e cercare di prendere naturalmente quello che ha fatto. Aspetta un attimo, cane, che me lo fai cadere. È necessario, perché purtroppo qua ci sono, come strada di periferia, purtroppo c'è gente che non è molto molto educata e lascia la deiezione dei cani, l'abbandona per strada, e questa è una cosa che proprio non sopporto. Basta solo un sacchettino di plastica e poi metterla nel differenziata. Meno nel mio comune si mette nell'indifferenziata, me la porterò un po' in giro, ma tanto puzzare non puzza perché lo chiudo. Bene, che belli argomenti a Letteralmente Radio, ragazzi. E cosa volevo dire? Riguardo a tutto questo discorso del festival, meno male che c'è, almeno perché, come dico, porta qualcosa di positivo. Come ritorno, diciamo, di città, poi ci saranno i Carri Fioriti. Anzi, se per caso capitate a Sanremo per i Carri Fioriti, ci sono dalla parte del mare, solitamente vicino alle carceri di Santa Tecla, che sarebbe quello che sono i musei, il museo principale di principale, insomma, il museo che è stato riadattato dopo che erano delle carceri in origine e saranno appunto l'intorno, ci sono decine ci saranno di produttori agricoli che venderanno il loro prodotto, quindi prodotti made in Sanremo, e da quello si vede anche da come sono i prodotti, cioè da quello che riguarda prodotti che sono stati ad esempio forzati in una serra e quelli che invece hanno avuto un modo di essere coltivati in modo più naturale. E quindi, se volete passare, io come si fa? Io mi chiamo Mauro comunque, e magari metterò un nome fuori Mauro, e se lo vedete mi salutate, non è che voglio che compriate qualcosa da me, ma così sarebbe interessante appunto sapere se c'è qualcuno che ascolta, che magari passando di lì così si scambia due chiacchiere. Bene, a questo punto siamo arrivati non siamo ancora arrivati alla terra di mezzo, nel punto in cui tutto cambia e una frana incombe sopra la mia testa. Non è proprio così, però diciamo che è un po' particolare, cioè provate a immaginare tutta una serie di case, più o meno casette quasi montagna, tra colline e montagna, tutto assieme si interrompe e poi c'è questa montagna in cui solo la parte un pochino più in alto è popolata da alcune case arroccate e sotto c'è una specie di dirupo. Per fortuna tutto con piante che bloccano almeno i problemi superficiali, perché se non ci fossero le piante basterebbe il primo colpo di acqua, la prima acquazzone un pochino più consistente e ci sarebbero veramente dei danni seri. Quindi mi raccomando, cercate di non disboscare, di mettere le piante, non lasciare la terra nuda, ecco. Ne avevo parlato in una trasmissione per quello che riguarda l'agricoltura, proprio riguardante proprio il fatto che una delle pratiche più semplici del mondo, quando si hanno delle piante, si hanno da frutto oppure arbore di qualunque tipo, è quando si deve tagliare l'erba sottostante, no? Non si deve ararla, ma semplicemente per rispettare la natura stessa basta tagliarla con una falce, con un decespugliatore, ognuno ha il suo metodo che preferisce, e conservare ancora le radici, almeno a livello superficiale. Questo appunto fa come una specie di effetto tampone, di effetto spugna, che permette poi successivamente alle piante, cioè al terreno stesso, di non essere dilavato in modo esagerato. E nello stesso momento aiuta anche i processi che ci sono microbiologici all'interno così tra la radice e il terreno stesso. Abbiamo parlato della micorrizza, dei funghi che praticamente fanno una specie di cambio-scambio tra la radice e il fungo stesso, ma quello che ne avvantaggia di più è naturalmente la radice, gli dà soltanto un po' di zucchero e gli altri gli danno altre sostanze molto più importanti, tra cui anche le ossine. E vabbè, adesso non vi faccio tutto questo discorso perché non è il punto. E comunque diciamo che è una buona cosa. Una buona cosa salvaguardare proprio questa parte del terreno, cioè il terreno nudo in sé è un terreno povero, cioè nel senso che è facilmente attaccabile dagli sdavamenti e e basta, è meglio appunto, oltretutto è anche una cosa molto più facile da fare, perché estirpare, arare non è una cosa così a maggior impegno, mentre invece un taglio delle erbe è tutta un'altra cosa. Qua sto vedendo sempre delle magnifiche mimose in fiore, cose che magari a Torino, a Milano non vedete, piante di mimose, perché sarebbero completamente danneggiate dal gelo, anche se le modifiche climatiche ci sono state, però penso che comunque a meno 3, meno 4, meno 5 qualche volta scende il termometro, forse magari anche di più. E naturalmente non per un giorno solo, per un giorno o due soli non è un problema. Ok. Bene, volevo continuare con... ecco, siamo quasi per arrivare al punto di mezzo, alla terra di mezzo. Siamo per arrivare dove c'è il torrente, dove ci sono le case nel torrente. Sembra incredibile, ma a poca distanza, magari a 5 metri di distanza dal rivo proprio stesso della nel torrente c'è tutta una serie di case che si sono insediate con i condoni edilizi dappertutto, e sono riusciti a pagando. Basta pagare il pizzo, poi dopo lo Stato in questo caso ti permette di continuare, anche se sei in una posizione veramente... Ha paura soltanto a vederlo. Per fortuna le portate di questi torrenti, per quanto siano così, che hanno delle portate, magari raddoppiano, triplicano, non c'è assolutamente dei grossi problemi, almeno perché comunque il punto da dove inizia, appunto le montagne, non sono così lontane, cioè non riesce a prendere abbastanza acqua, abbastanza parte di acqua per quello che riguarda la... Thank you. la quantità di acqua stessa che viene poi a essere inviata in questo torrente. Bene, proseguiamo ancora un po', tra poco magari, tanto probabilmente mi stuferete. Sto vedendo delle piante, hanno piantato delle palme, che veramente in questo ambiente stona un pochettino, nel senso che qui siamo in collina e collina montagna e le palme proprio c'entrano veramente poco. Però de gustibus non disputando, est, dicono, e andiamo avanti. Quindi facciamo il punto della situazione. E vi ho parlato male del Festival di Sanremo, vi ho parlato bene dei tempi andati del Festival di Sanremo, vi ho parlato di quanto possa essere utile per l'economia della zona e manifestazioni di questo genere. E poi da aggiungere che comunque il Festival di Sanremo è non... cioè dal tempo in cui era ancora nel teatro del Casinò, che c'è un piccolissimo teatro nel Casinò di Sanremo, e è stato iniziato lì, infatti c'era stata la famosa frase di... adesso non mi ricordo la personaggio, mi ricordo la frase, cari amici vicini e lontani, praticamente questa frase è stata fatta perché il secondo festival era stato fatto praticamente un po' più di una specie di spettacolino, chiamiamolo così, e che l'hanno definito festival, iniziando comunque a portare dei personaggi abbastanza noti. Nei dintorni c'erano, intorno a questi palchi c'era delle persone che mangiavano, che facevano appunto il loro pranzo, naturalmente dopo essere stati al, vieni qua cane, al casino, eccetera eccetera, e erano abbastanza distratti, e quindi non si filogano, adesso mi è venuto in mente. Questo presentatore, che poi è stato anche in televisione, quindi in Rai vero e proprio, ha coniato questa frase: cari amici vicini e lontani sarebbero stati quelli dei tavoli, che non gliene fregava assolutamente niente di quello che diceva lui, di quello che dicevano, di quello che cantavano in quel momento i cantanti, tra l'altro senza troppo disturbare le persone che stavano mangiando, perché praticamente era uno spettacolino, il Festival di Sanremo era uno spettacolino in quel momento lì, per il primo secondo festival vero e proprio. Poi hanno cambiato tutto, è stato spostato a un cinema in via Matteotti, che ancora adesso è il cosiddetto Teatro Ariston, che se lo vedete non con i palchi e con tutto quello che riguarda lo sfarzo, la bellezza, perché poi ci sono dei coreografi che sono veramente in gamba. E se lo vedete, quando è un semplicissimo teatro, cinema, più che teatro, sì, anche come cinema, come teatro voglio dire, vi accorgete e dite: ma è tutto qua, sembra proprio veramente un qualcosa di piccolo, il palcoscenico sembra minuscolo, proprio rispetto ad altri non, cioè, nessuno gli darebbe mezzo soldo bucato. Però nonostante tutto, chi riesce a fare le coreografie sviluppa anche in senso di altezza, perché per fortuna è abbastanza alta tutto il sistema che c'è, appunto è fatto appunto come un teatro d'opera, diciamo, in un certo senso, anche se sto dicendo una parola un po' esagerata, perché semplicemente ci sono dei balconi un po' più alti, basta, non è che ci sia molto, e ci sono i gradoni e le persone che possono assistere sia sopra che sotto. E tutta questa cosa qui è appunto è tutta una montatura, è una qualcosa che modifica il discorso che stavo dicendo, che è relativo proprio a quello che sono gli spettacoli, cioè sono dei momenti di finzione che aiutano le persone a sognare e naturalmente aiutate anche da personaggi di spicco, perché nonostante tutto il negativo che ci sia, sono stati in passato e anche penso adesso in questo festival dei personaggi di livello internazionale che sono stati, ma anche soltanto per una comparsata, ma comunque hanno calcato anche loro le scene del Festival di Sanremo. E con questo io direi che ne avete abbastanza. È un modo molto diverso di approcciarsi a questo festival, visto da qualcuno che non gli importa più di tanto, però ha nostalgia di un festival diverso, non così con trucchi e mezzi per soprattutto scandali tra virgolette, che aiutano soltanto il business e non fanno il bene della manifestazione stessa, se non dal punto di vista dell'audience e quindi del business stesso, ma dal punto di vista artistico purtroppo a volte resta un po' a desiderare. Ma questo è normale, perché Sanremo è finzione, è immerso in un ambiente che normalmente, vieni qua, normalmente sempre, cioè c'è sempre il sole, il bello, il sereno, basta soltanto andare verso il mare, e come questa sera, cioè, ci sono dei tramonti bellissimi, quindi è tutto un po' unito, è un po' come per chi partecipa o per chi vede o per chi è andato magari per qualche volta nelle zone di Sanremo eccetera, nella Riviera Ligure, è come essere in vacanza, è il turista. E il turista che arriva qua si sbraga, cioè praticamente è molto più rilassato, tranquillo, perché appunto la vita di provincia è molto più calma. Se vi devo dare un suggerimento e dovete mai venire qua, cercate di conoscere anche i borghi vicini, ad esempio Armaditaggio, Spedaletti, che sono molto molto più vicini al modo di essere tranquillo di una provincia, ma senza l'esagerazione di Sanremo, che crede di essere una metropoli, mentre invece è una cittadina di provincia che ogni tanto viene a essere illuminata da manifestazioni di questo genere. Poi naturalmente tutto si spegne sino alla volta dopo, e ringraziamo comunque la RAI, perché altrimenti, se non fosse per quello, parlavano già, mi pare, Mediaset di trasferire, se riusciva a prendere il festival, di trasferirlo a Roma, quindi diventava il Festival di Roma e non più di Sanremo. L'incongruenza della cosa naturalmente poi ha fatto finire lì il discorso, perché non c'entra nulla, cioè allora fate il Festival di Roma e non quello di Sanremo, che non c'entra proprio nulla. Bene, un grosso saluto e proseguo ancora nella mia passeggiatina di 6 km, ne ho già fatto 2,5 e dobbiamo far presto, perché è abbastanza tardi, sono le 5 della sera del 7 di febbraio e fa freschino, per noi è freschino, essere a 10-12 gradi vuol dire essere abbastanza, cioè fare abbastanza freddo, con un'umidità non troppo elevata, quindi si starebbe bene, però diciamo che per noi è freddo. Un grosso saluto da parte di Mauro e Letteralmente Radio. Voglia di Talk Radio? Ascolta anche tu Letteralmente Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Buongiorno. Buongiorno cari e carissime nel Signore, oggi è il 26 maggio e ci ritroviamo di nuovo nella stanza delle letture casalinghe e devo dire che sono molto contenta perché per due giorni non ho avuto tempo di venire in questa stanza e mi sono dedicata all'altra delle letture spirituali speciali, ma non so per quale motivo in questa stanza delle letture casalinghe percepisco un grande senso di libertà. Non lo so per quale motivo, se dipende dal fatto che parliamo di Gesù o se dipende dal fatto che di Gesù ce ne stia parlando Yogananda Paramahansa, che appunto è uno yogi realizzato che io ho conosciuto veramente molto tempo fa, circa mio figlio aveva neanche credo 5 anni, quindi quasi 30 anni fa e un po' meno, insomma un bel po' meno, comunque insomma tanto tempo fa, attraverso un suo libro molto famoso che chi conosce Yogananda Paramahansa sicuramente avrà letto, perché quelli che stiamo leggendo ora sono molto più rari, poco popolari. Questo testo dei Vangeli di Gesù secondo Paramahansa Yogananda è meno popolare perché il suo testo di riferimento è autobiografia di uno yogi, perché lui appunto è uno yogi. Adesso, continuando in questa lettura, Yogananda si sta chiedendo, ci sta spiegando se Gesù era uno yogi. E andiamo avanti. Gesù era uno yogi ed anche un rinunciante, vedete, addirittura tutte e due le cose, sia uno yogi, quindi una persona realizzata nella coscienza cosmica, e un più rinunciante, quindi come un sannyasi, come una persona che rinuncia a tutto, quindi rinuncia alla vita familiare, rinuncia ai doveri anche in un certo senso sociali di riferimento, no? Quindi i lavori che di solito noi dobbiamo fare, no? Infatti vedete, lui lo considera addirittura sia yogi che rinunciante. Non solo Gesù stabilì il contatto con Dio nel suo spirito, vedete, e si innalzò sopra tutti gli attaccamenti materiali, ma praticò anche il non attaccamento alle cose materiali nella sua vita esteriore. Egli voleva che i suoi discepoli, insieme alla saggezza e all'autorealizzazione che possedevano, fossero anche uomini di rinuncia. Ecco perché prima di tutto Gesù Cristo diede autorità ai suoi discepoli con la coscienza di Dio e il potere di guarire, e quindi ingiunse loro di non portare niente lungo il viaggio che potesse indicare un senso di attaccamento al corpo. Per questo egli disse: «O miei discepoli, che siete carichi e saturi di Dio, mostrate il vostro elevato esempio spirituale e il vostro non attaccamento alle cose materiali, non portando niente lungo il viaggio, eccetto un bastone e un semplice vestito. Non mettete oro o argento o denaro nella vostra borsa. Portate solo un soprabito, non due, non calzate lussuose scarpe di pelle, ma calzate dei sandali di legno facilmente ottenibili». Gesù ingiunse ai suoi avanzati discepoli di non portare scarpe, perché queste erano più costose dei sandali. Gesù preferiva i sandali di legno alle scarpe fatte con la pelle degli animali uccisi. In tutti i luoghi sacri orientali venivano usati sandali di legno, mentre le scarpe di pelle, considerate impure, venivano scartate. Questo in India, ovviamente. Regole per i monaci. I numerosi monaci buddisti che vissero in India nell'era precristiana e tutti i membri dell'ordine degli Swami in India confinano i loro possessi principalmente in un bastone e in un semplice vestito, e la maggioranza del tempo essi camminano a piedi nudi o calzano sandali di legno. Gesù disse ai suoi discepoli di usare un solo soprabito perché vivevano in un paese caldo. Da ciò non segue che usando semplicemente sandali di legno o andando con il corpo ignudo una persona diventi necessariamente spiritualmente grande. Né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Questo lo troviamo in Matteo, capitolo 10, verso 10. Scusate, la testa tagliata non va bene. Ecco, così è meglio, giusto? E in India... Quindi Gesù disse ai discepoli come dovevano mantenersi. O voi rinuncianti divini, ricordate che come l'abile operaio guadagna onestamente il suo vivere con il proprio lavoro, anche voi come operai divini che offrono agli uomini il più alto servizio spirituale e la salvezza, meritate di ricevere il vostro sostentamento fisico da quelli che aiutate. Vedete, c'è, diciamo, un mutuo soccorso, perché è molto importante, come in ogni cosa, no? La reciprocità, altrimenti diventa una cosa vana, vacua o solo autocelebrativa, ma poi in realtà non porta niente. Ecco perché anche in questo caso, nella nostra, diciamo, nelle nostre stanze, in queste stanze, mi piacerebbe molto che ci sia anche una certa reciprocità con voi. Già vi ho chiesto in altri video se avete appunto qualcosa da dire, che volete che io lo pubblichi in questo mio canale, e ne sarei molto lieta, perché appunto quello che sto facendo è totalmente gratuito, lo sapete, non c'è nessun fine di lucro tranne quello di stabilire buone relazioni tra le persone che appunto sono interessate a questi argomenti di natura spirituale, prettamente spirituale, anche perché noi, sia in questa stanza che nell'altra, quindi questa delle letture casalinghe, nell'altra delle letture spirituali speciali, la mia idea appunto è quella di dare voce proprio ai diretti interessati. Non leggerò mai dei saggi critici perché non mi interessano, ma mi interessa appunto dare voce a queste personalità che con la loro vita hanno dimostrato veramente, completamente di appartenere appunto al Signore. In India ci sono molti swami altamente evoluti che vivono delle elemosine date alla gente. Un uomo spirituale impegnato ad offrire all'umanità il servizio più alto, quello di salvare anime, vive molto onorevolmente anche se campa di elemosine. Questa è la figura del sannyasi, viene chiamata così in India. A causa dell'alto costo della vita, in Occidente i religiosi ricevono dei salari, Ma l'unico danno di vivere col salario è che il ministro religioso viene spesso controllato dagli amministratori o dal consiglio, e se egli, come impiegato, non è d'accordo con la linea indicata dal consiglio, corre il rischio di essere esonerato. Come un impiegato disubbidiente in ufficio viene licenziato perché non ubbidisce al suo superiore. Istituzioni gratuite in India. Nei grandi centri religiosi dell'India ci sono grandi istituzioni dove swami e yogi ricevono gratuitamente vitto e alloggio senza alcun obbligo da parte loro. Questo tipo di istituzioni favoriscono la crescita dei veri maestri che vogliono dedicare tutto il loro tempo alla causa del benessere spirituale, senza avere la distrazione di doversi guadagnare da vivere. Naturalmente il solo male che deriva da questo è che molti mendicanti che non riescono a mantenersi indossano l'abito di swami e rinuncianti e usufruiscono del vitto e dell'alloggio gratuito dato da queste istituzioni religiose. Malgrado questo male, l'assistenza gratuita per i veri maestri spirituali favorisce immensamente la crescita delle anime spirituali, delle anime spiritualmente evolute, liberandoli dal controllo dei consigli amministrativi delle chiese. Adesso entriamo in un altro capitolo dove Yogananda Paramahansa ci dice, citando questo verso della Bibbia, «Siate saggi come serpenti e innocui come colombe». Gesù parla del serpente e del potere spinale di Kundalini, o del terzo occhio o dell'occhio spirituale simbolizzato dalla colomba. In qualunque città o villaggio entrerete, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa salutatela. Se la casa ne è degna, la vostra pace scenda sopra di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno non vi accoglierà né darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa e da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella città. Matteo, dal libro di Matteo, al capitolo 10, il verso va dall'11 al 15. E in qualsiasi città o villaggio andiate, cercate chi sono le persone spirituali e degne di ricevere il vostro messaggio di salvezza, accettando la loro ospitalità come vostra ricompensa spirituale. Dimorate con queste persone finché non avrete insegnato loro abbastanza e sarete pronti per andare altrove ed aiutare gli altri. Visitando un'altra famiglia, salutatela umilmente con una manifestazione, come una manifestazione di Dio. Infatti anche io, vedete, quando vi saluto e faccio questo. Questo è tipicamente indiano e si saluta, io saluto così perché mi inchino a voi che siete comunque una manifestazione di Dio. Noi siamo tutte manifestazioni di Dio perché Dio alberga in ogni cuore e quindi io facendo questo gesto mi inchino alla vostra natura divina, quindi non è una supplica come mi è stato criticato da una persona tra l'altro a me molto cara, che mi ha detto: quando inizi i tuoi video ti inchini, dici signori, sembra che stai supplicando. No, non c'è supplica, ma c'è proprio onore, c'è onoreficenza, cioè mi inchino proprio alla parte migliore, alla parte spirituale, alla parte luminosa che noi tutti abbiamo dentro, che è quella che è la nostra vera natura, poi tra l'altro coperta da tante cose purtroppo non necessarie che ci condizionano. E se qualcuno non accoglierà il vostro messaggio di libertà divina, vedete, lui parla di libertà oggi, e io oggi che ho iniziato il video dicendo che in questa stanza con lui, con Yogananda Paramahansa che parla di Gesù, si respira, no? Questo messaggio, vedete, non lo sapevo, guardate, lo sapete che io leggo questi libri insieme a voi, non l'ho mai letti, eh? Parla di libertà divina. Quindi riprendo, se qualcuno non accoglierà il vostro messaggio di libertà divina, né ascolterà le vostre parole di saggezza, allora andate via da quella casa o città e scuotete la polvere delle loro cattive vibrazioni. Sì, perché c'è proprio scritto nella Bibbia, no, di strusciare, no, proprio i piedi e alzando la polvere, perché la polvere è un simbolo molto importante nei discorsi mistici. Questo sarà una prova delle loro cattive nature davanti alle loro coscienze. In verità vi dico che la legge del karma punirà quella città o casa che ha rifiutato il vostro messaggio di liberazione dell'anima, anche più di quello che Sodoma e Gomorra soffrirono come conseguenza dei loro misfatti. Trasferire la coscienza divina. È stato detto prima che i grandi maestri possono trasmettere la loro pace e coscienza divina ai discepoli degni, proprio come un ricco può cedere la sua ricchezza a chiunque voglia. Avendo il potere di trasmettere la pace ai ricercatori di Dio, i discepoli di Gesù furono istruiti nella maniera seguente. O amati discepoli, trasmettete la pace alle anime degne nelle case o nei luoghi spirituali, ma se andate in un posto e accorgete che la gente è spiritualmente indegna, conservate la vostra pace dentro di voi e andatevene. Anche se vi chiedo di vivere della carità della gente di una casa, non dimenticate in nessun modo di mantenere la coscienza che siete leoni spirituali, figli divini fatti ad immagine di Dio. Ecco perché se qualche casa non apprezzerà le vostre esemplari vite spirituali e non trarrà profitto delle vostre parole di saggezza, allora allontanatevi da quel posto. Non nella collera, ma dichiarando fermamente la follia di quella gente ignorante che avrebbe potuto avere la salvezza tramite voi e non è riuscita ad averle a causa della loro grande ostilità e mancanza di recettività. Sì, perché c'è anche questo, no? C'è proprio una mancanza di ricettività, no? Che questa poi, come ci è stato insegnato anche proprio dalla tradizione indiana, questa è anche un qualche cosa che ci portiamo dietro appunto dalle vite passate. Essere più o meno ricettivi dipende anche proprio dal nostro personale karma. Le azioni di quelli che vi trattano con ostilità saranno registrate dalla legge cosmica, attirando così un cattivo karma. Vedete, in verità vi dico che il giudizio della legge cosmica contro gli ignoranti malfattori di Sodoma e Gomorra sarà meno severo del giudizio contro quei criminali spirituali che hanno bestemmiato contro Dio, non riconoscendo voi che siete più alti rappresentanti dell'intelligenza cristica e di Dio. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Una migliore traduzione è soavi. Siate cauti come i serpenti e soavi come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per essere di testimonianza a loro e ai pagani. Questo è scritto nel libro di Matteo, al capitolo 10, 16, 18 i versetti. Ecco, dunque andiate, dovunque andiate, la mia coscienza deve essere manifesta in voi e dovete sempre considerarvi umili, inoffensivi, non vendicativi, come un mite agnello. Anche quando sarete circondati da persone crudeli e senza scrupoli, come lupi voraci, per trattare con le pecore, con le persone sataniche, selvagge e con le tentazioni dei sensi, voi dovete rimanere sempre dentro la vostra grande calma e saggezza, nata dalla realizzazione divina che avete ricevuto risvegliando la forza serpentina, la Kundalini, o energia divina avvolta a spirale, e nella pace che avete acquisito concentrandovi nell'occhio spirituale di tre colori che dà la pace e assomiglia ad una colomba. Significato interiore di serpente. Generalmente non si comprende che cosa Gesù intendesse quando disse di essere saggi come serpenti e innocui come colombe. I comuni serpenti non hanno saggezza, sono pronti all'ira e sono abbastanza stupidi da mordere la gente e venire uccisi. Le colombe non sono innocue, poiché uccidono e mangiano gli insetti. Anche se la colomba può essere usata come simbolo di pace per il suo aspetto pacifico, il serpente certamente non sembra saggio o ispirante. Gesù usò queste parole in senso simbolico, esoterico, perché stava parlando ai suoi discepoli avanzati. Le sacre scritture orientali hanno usato la similitudine del serpente per descrivere la forza serpentina, ovvero la forza che passa attraverso un passaggio avvolto a spirale alla base della colonna spinale. La forza astrale che, attraverso il passaggio serpentino a spirale che si trova nel coccige, va dai sensi al cervello con l'aiuto di qualche alta tecnica di autorealizzazione, che viene chiamata appunto Kundalini risvegliata o forza serpentina risvegliata. Infatti è molto importante, cari e carissimi nel Signore, avere un comportamento sempre abbastanza diritto, cioè la spina dorsale è importante che non sia mai afflosciata, ma sia sempre abbastanza diritta, perché questo permette appunto a questa energia vitale molto importante di fluire bene e quindi di ossigenare bene il nostro cervello. E qui continua appunto parlando di questa energia. Kundalini non può essere risvegliata accidentalmente. Molte persone pensano che questa forza Kundalini possa essere facilmente risvegliata o destata per caso. Sono queste persone che parlano erroneamente del significato di Kundalini o del risveglio divino come cosa pericolosa. Nel sonno l'energia e la coscienza del corpo umano si ritirano dai muscoli, dai nervi sensori e dai sensi e vanno nella regione del cuore, della spina dorsale e del cervello. Nell'estasi profonda il devoto sa come ritirare coscientemente la forza vitale dal coccige e dal cuore e farla scorrere velocemente attraverso il passaggio serpentino alla base della colonna spinale e attraverso i plessi spinali e nel cervello, rivoltando la sua direzione verso l'alto, qui, una cosa del genere, non me lo ricordo più, comunque è questo, qui c'è un foro, come se ci fosse un foro simbolicamente, e questa energia fluisce verso l'alto, verso il divino. Una cosa del genere. E quindi, nel comune individuo identificato con il corpo, la forza vitale e la coscienza scorrono continuamente verso il basso, attraverso il passaggio serpentino alla base della colonna spinale. E così egli è cosciente solamente del corpo e dei suoi piaceri sensuali. Ogni grande santo di qualsiasi religione che abbia ottenuto la coscienza divina sa come ritirare la propria coscienza e forza vitale dalle regioni dei sensi, dal passaggio e dai plessi della colonna spinale, alla coscienza divina nel cervello e nello spazio esterno che circonda il corpo. Da qui capite proprio come lui spiega le cose da un punto di vista yogico, no? Mosè innalzò il serpente nel deserto. Si dice che Mosè abbia innalzato il serpente nel deserto, cioè con la meditazione profonda egli innalzò la sua coscienza e forza vitale attraverso il passaggio serpentino alla base della colonna spinale per unirle con la coscienza divina nel cervello, nel deserto o nel profondo silenzio nato dalla meditazione. Il risveglio della forza Kundalini è estremamente difficile e non può essere fatto accidentalmente. Chi è in grado di svegliare Kundalini si avvicina rapidamente allo stato di cristità. Molti maestri ignoranti pensano che risvegliare la forza Kundalini sia identico a risvegliare la coscienza sessuale, una concezione estremamente ridicola ed erronea. Gesù sapeva che molti dei suoi discepoli avevano risvegliato la loro coscienza, destando la Kundalini, la forza avvolta spirale come un serpente, perciò chiese ai suoi avanzati discepoli di mantenere la calma e la saggezza profonda che avevano acquisito con il risveglio della Kundalini ogni qualvolta dovevano affrontare la persecuzione. Sì, questo tipo di risveglio è dovuto a delle tecniche che io adesso vagamente mi ricordo perché ho fatto appunto molto da molto giovane, che appunto avvengono soprattutto attraverso il pranayama, che si chiama così, prana sarebbe energia, no? Quindi l'energia che c'è, questa energia sottile che c'è nell'aria proprio, però non è aria, è un'energia eterica, che noi appunto possiamo incamerare attraverso la respirazione che facciamo con le nari, queste due nari, queste qui le narici, e si chiamano Ida e Pingala, e quindi con l'ausilio di alcune respirazioni particolari noi possiamo appunto risvegliare questa energia che parte dal basso, dal chakra, perché secondo la cultura orientale yogica, questa degli yogi come Paramahansa Yogananda, esistono appunto delle i famosi sette chakra che partono dal basso e arrivano fino in testa. Il primo, appunto, dove risiede, sembrerebbe che risiede appunto addormentata questa forza che è la Kundalini, questa energia potentissima che sta alla base, praticamente sotto ai genitali, in questo chakra che si chiama Muladhara, Muladhara Chakra, e che noi possiamo appunto risvegliare attraverso queste tecniche di respirazione. E quindi, siccome questo dà molta forza e molta energia, secondo Yogananda Paramahansa, questi discepoli di Gesù, che si presume, appunto lui lo dice proprio, che sarebbero stati perseguitati, e quindi lui consiglia loro appunto proprio di usare questa forza e di risvegliarla, perché questa forza dà un grande potere spirituale, no? Una grande energia, una shakti, diciamo, perché viene chiamata anche così, no? E le potenze vengono chiamate shakti. Questa, credo che anche la Kundalini appunto sia una grande shakti, no? Una grande potenza. Continuiamo. Ammoniti contro la vendetta, chiunque ha risvegliato questa forza serpentina, cioè ha portato la sua coscienza attraverso il passaggio serpentino nel coccige, quindi alla base, fino al cervello, ha acquisito poteri miracolosi, addirittura, vedete? E con la potente energia ridestata nel suo cervello e nella forza di volontà può distruggere i suoi nemici o conquistare tutte le tentazioni. Ecco perché Gesù ammonì i discepoli a non usare il potere divino per mettere in atto la vendetta sui nemici, ma di usare il potere celestiale dell'amore per conquistarli. Gesù dimostrò altrove questa idea. Quando i suoi nemici l'arrestarono per portarlo davanti a Caifa, egli non usò contro di loro i suoi poteri spirituali, sebbene disse chiaramente: «Pensi forse che non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli?» Questo lo troviamo in Matteo al verso 53. In seguito Gesù, quando era crocifisso e sofferente sulla croce, compì il più grande miracolo spirituale della sua vita, dicendo: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Questo lo troviamo in Luca al capitolo 23, nel verso 34. Dimostrate l'amore silenziosamente. Non importa quanto una persona sia cattiva o agisca contro le leggi divine, Dio non usa mai i suoi poteri miracolosi per distruggerla. La persona cattiva si distrugge con i propri peccati. Questo bisogna capirlo bene. Ripeto, perché questo è un punto molto proprio importante, centrale, nevralgico della cultura cristiana. Non importa quanto una persona sia cattiva o agisca contro le leggi divine, Dio non usa mai i suoi poteri miracolosi per distruggerla. La persona cattiva si distrugge con i propri peccati, si autodistrugge. Dio è amore e dimostra l'amore con il silenzio, amando silenziosamente. Chi fa il male, egli lo richiama alla casa divina. Con tutto il suo potere onnipotente, Dio non usa mai la forza fisica per conquistare il male. Egli si serve dell'amore e della saggezza per sconfiggere il male nel mondo. Tutte le anime cristiche che lo amano sanno che non devono mai usare il potere divino per distruggere i figli di Dio che sbagliano, ma devono usare il loro amore per conquistarli. Questo è proprio il senso profondo del messaggio di Gesù. Usare il potere divino per fini maligni è un'impietà e conduce a una grande caduta spirituale. Per questo motivo Gesù chiese ai discepoli di usare la più innocua e più forte forza di pace, aprendo l'occhio spirituale con la meditazione per conquistare tutte le altre cosiddette forti forze del male. Quando una persona si concentra con gli occhi chiusi, nel punto tra le sopracciglia qui, vede una luce con una stella bianca in mezzo, racchiusa in una sfera di luce blu, che a sua volta è circondata da un anello di luce dorata. Ecco, quindi ecco i tre colori di cui parlava prima, perché prima ha citato, non so se siete stati attenti, ha citato tre colori e i colori sono appunto questi, quindi bianco, poi blu e intorno è il colore oro. Bellissimi, il bianco, il blu e il colore oro. Questi sono i tre colori che per definizione insomma descrivono quello che è appunto la coscienza cristica o cosmica o come la vogliamo chiamare, insomma. Quando si accende l'interruttore di un'automobile, ciò manda la corrente attraverso un filo nei due fili che fanno accendere i due fari della macchina. Allo stesso modo, il midollo allungato manda la forza vitale nei due occhi fisici attraverso i nervi ottici. Certo, perché noi abbiamo il nervo ottico che è molto importante, no? Però noi dobbiamo concentrarci su il singolo occhio spirituale. E qui c'è anche, vedete, c'è anche il disegno di una colomba che ve lo faccio vedere, perché se c'è la sua importanza, se è stato stampato. Gesù disse: se perciò il tuo occhio è singolo, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce. Egli voleva dire che ogni devoto che sa come focalizzare il proprio sguardo interiore nel punto tra le sopracciglia, s'accorge che la luce che dai due occhi va ai nervi ottici viene concentrata in un singolo e visibile occhio spirituale, nel punto tra le sopracciglia. Con la meditazione più profonda il devoto sa come far penetrare nello spazio esterno la propria coscienza e forza vitale attraverso il telescopico occhio spirituale dei tre colori. Ecco, vedete, ogni devoto che può focalizzare i propri occhi e riesce a contemplare l'occhio spirituale ed è in grado di entrarvi, scopre il suo corpo fisico e il suo corpo universale, pieni di luce cosmica e di luce di saggezza. I pastori seguirono la stella spirituale. Quando i pastori videro la stella che annunciava la loro nascita di Cristo attraverso il loro occhio spirituale, essi videro la stella della saggezza, dove la coscienza cristica si era manifestata nel corpo di Gesù. Ogni devoto deve sapere come far passare la sua saggezza attraverso la stella dell'Est o la stella nascente della saggezza che gli vede in fronte a sé in meditazione fino alla coscienza cristica che le sta dietro. Quei maestri spirituali che sono andati oltre la coscienza umana nella coscienza cristica, penetrando attraverso l'occhio spirituale, hanno poteri tremendi e possono compiere molti miracoli divini. Perciò Gesù ammonì i suoi discepoli che avevano trovato la pace infinita facendo penetrare la loro coscienza attraverso l'occhio spirituale o la colomba di luce, affinché essi non usassero male i loro poteri spirituali quando si sarebbero trovati di fronte alle malvagità dei figli di Dio che sono nell'errore. i tre colori dell'occhio spirituale paragonati a una colomba. A causa dei loro tre colori, l'occhio spirituale è stato paragonato a una colomba. La bocca della colomba è stata paragonata alla stella bianca nel mezzo dell'occhio spirituale e gli altri due colori, il blu e l'oro, sono stati paragonati alle due ali della colomba. Quindi la bocca della colomba è stata paragonata alla stella bianca nel mezzo dell'occhio spirituale e gli altri due colori, il blu e l'oro, sono stati paragonati alle due ali della colomba. Tutte le anime cristiche che aspirano a raggiungere il regno di Dio devono comportarsi divinamente e conquistare il male soltanto con la forza spirituale, come fa Dio. Il male non può essere conquistato con il cattivo uso del potere divino. Sarebbe facile per i devoti che hanno acquisito dei poteri miracolosi cercare di conquistare i loro nemici con il cattivo uso della forza divina. Perciò Gesù avvertì i discepoli del pericolo di perdere la forza divina duramente acquisita se uno la usasse per fare vendetta contro i propri fratelli divini che agiscono sotto l'influenza dell'ebbrezza dell'illusione. Vedete, chi pecca agisce sotto l'ebbrezza dell'illusione. Il male non può conquistare il male. Quindi Gesù profetizzò riguardo alle persecuzioni che i suoi discepoli avrebbero subito per mano degli uomini privi di comprensione. Per questo Gesù disse: figli miei, state attenti agli uomini materialisti che vi consegneranno ai giudici e vi faranno frustare nelle sinagoghe perché predicate il Vangelo della libertà divina. Vedete, oggi parla di libertà. Stranamente io ho iniziato il video dicendo che io in questa stanza, nella stanza delle letture casalinghe, mi sento libera. Voi sarete accusati davanti al re e governatori perché vivete la mia verità e la predicate. I pagani e le forze politiche che vi ostacolano perché vivete la verità e predicate il mio messaggio saranno condannati davanti al tribunale della legge cosmica. Il loro cattivo trattamento sarà come una testimonianza che agirà contro di loro durante il giudizio preannunciato dalla legge cosmica. Guardare il nostro corpo cosmico. Un uomo comune, coscientemente identificato con il proprio corpo, usa gli occhi e le sue sensazioni per vedersi limitato dal corpo, dalla famiglia, dalla società, dal paese, dal mondo e da una certa porzione dello spazio. Ma quando medita e fa penetrare la propria coscienza attraverso l'occhio spirituale, allora egli si vede in tutto lo spazio e vede tutte le creature viventi come differenti forme del proprio sé. In questa condizione, con il suo corpo e la sua mente come stati centrali di coscienza, egli vede tutti gli esseri viventi come parti del suo immenso corpo cosmico. Questo devoto che ha risvegliato la propria forza del serpente ha levato il riflettore della propria coscienza da una parte limitata di materia e sensazioni in un corpo ed ha espanso la propria coscienza per illuminare tutto lo spazio, avendo un'effettiva percezione delle sensazioni di tutti gli esseri viventi. Questo devoto, risvegliando la forza del serpente e rivoltando nel corpo i riflettori dei suoi sensi verso Dio, si identifica con la saggezza esterna e non viene per niente disturbato da prove e tentazioni. Il devoto che attraverso l'occhio spirituale contempla la propria esistenza in tutto e sente un'ineffabile pace e armonia con tutte le cose e creature viventi e vede tutti i sé come manifestazione del proprio essere, diventa inoffensivo verso tutto. Amando ugualmente tutte le diverse parti del proprio corpo cosmico. Questa realizzazione è ciò che Gesù intendeva quando chiese ai suoi discepoli di essere saggi come serpenti e innocui come colombe. Infatti Gesù nella Bibbia viene sempre descritto come mansueto. Vediamo a che ora abbiamo fatto, perché qui sapete i video non possono essere troppo lunghi, altrimenti vi potrebbero annoiare. Io starei qui ore e ore e ore a leggere, perché sono veramente, come dire, assetata, no? di letture spirituali. Però mi rendo conto che fare dei video troppo lunghi poi potrebbe annoiare le persone. E quindi mi sono data un tempo che appunto di solito questi video sia in questa stanza che nell'altra non arrivano, non superano mai un'ora, delle volte può essere successo, ma insomma diciamo che ogni video ha la durata di un'ora o giù di lì. Vediamo che cosa possiamo leggere, perché abbiamo appunto forse ce la facciamo in un quarto d'ora? No, abbiamo sì, un quarto d'ora. Come bisogna agire durante le persecuzioni? L'intuizione e non l'ego deve essere la guida dell'uomo, vedete? E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovete dire. Non sarete infatti voi a parlare, ma sarà lo spirito del Padre vostro che parlerà in voi. Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Perché tanti sono stati martirizzati, perseguitati. Noi adesso stiamo prendendo, oggi come oggi, possiamo prendere i frutti di queste saggezze, no? Di queste importantissime informazioni per la nostra vita spirituale, così, in maniera dolce, tranquilla, possiamo leggere un libro. Ma la storia dei nostri fratelli ha il suo peso, perché sono stati perseguitati per queste parole, perché queste sono parole molto rivoluzionarie, quelle di Gesù. Ma, come ci dice lui, chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Quando v'arresteranno, non usate la ragione umana limitata e calcolatrice, ma lasciate che Dio parli attraverso la vostra intuizione e la vostra voce. Non fate parlare il vostro ego umano, ma fate parlare la saggezza di vostro Padre attraverso il vostro abbandono interiore a Lui. Anche il fratello umano perseguiterà il fratello spirituale che seguirà la verità. Per seguire l'intelligenza cristica dentro di voi sarete odiati da tutti. Soprattutto dalle persone materialiste, ma chi per amore della verità resisterà alla persecuzione fino al termine della vita sarà salvato dalla reincarnazione della vita terrena che dà infelicità. Nelle suddette parole Gesù descrive come dovrebbero agire le persone guidate da Dio quando vengono perseguitate. Negli affari e nei processi, gli uomini studiano con esattezza le loro parole e attività in ogni trattazione, ma Gesù fece notare che le anime in sintonia con la coscienza cosmica sono guidate da essa nei loro sensi, nei pensieri, nei sentimenti, nell'intelligenza e nelle intuizioni. Guidati dalla più alta saggezza, quindi le anime sintonizzate con Dio devono essere guidate in tutte le loro attività dalla più alta saggezza e dalla onniveggenza e veggente intelligenza, invece di dipendere dalla preparazione della limitata ragione. La coscienza cosmica non ragiona con i devoti, ma lascia cadere la verità nelle loro intuizioni. I devoti usano le loro intuizioni per guidare la ragione, le parole e le azioni. L'intuizione non nasce nella ragione, ma è il padre della ragione e può soddisfare tutte le domande della ragione. La ragione umana si basa sull'esperienza dei sensi ed è da questa limitata. Cioè i sensi ci danno la possibilità di capire, perché noi capiamo ovviamente attraverso i sensi, però nello stesso tempo questi sensi ci limitano. Quindi a che cosa dobbiamo fare riferimento? All'intuizione, che l'intuizione è un qualcosa che è al di là dei sensi e addirittura al di là della ragione. È un momento mistico. No? Quando diciamo, avevo intuito questa cosa e non si capisce perché, no? Se l'esperienza dei sensi viene interpretata male, la ragione si dimostra erronea. Una persona che da lontano vede una nuvola di polvere su una montagna può essere indotta a pensare che la montagna stia bruciando, provocando una nuvola di fumo. Questo dimostra come la ragione, che dipende dall'esperienza dei sensi, può ingannare se l'esperienza sensoria o l'osservazione è imperfetta o incompleta. D'altro canto, come Dio conosce la verità di tutte le cose attraverso la sua intuizione onnipresente, così anche i suoi devoti conoscono tutto grazie alla loro sviluppata intuizione. Vedete, Dio non ha occhi né sensi né ragione dipendente dai sensi attraverso la quale conoscere. Egli è il conoscitore. Il processo del conoscere, la saggezza da conoscere, quindi egli conosce tutto mediante la sua intuizione o sentimento presente in tutto. Gesù esorta i suoi discepoli a dipendere dall'illimitato potere e dalla guida della percezione intuitiva di Dio e non dalle loro limitate ragioni quando devono affrontare le persecuzioni o altri problemi umani. Perciò disse: «Miei cari, quando, per amore di predicare la mia verità liberatoria, voi sarete portati davanti ai governatori, non fate piani su come parlerete o cosa direte in difesa vostra e della verità, poiché Dio è la vibrazione cosmica, Dio è la vibrazione cosmica, essendo presenti in voi, parleranno istantaneamente attraverso la vostra voce e ragione, nello stesso momento in cui vi sarà chiesto di parlare». Quindi dobbiamo dipendere dall'intuizione. Stando in armonia con lo spirito del vostro Padre Celeste, voi dovete sentire che non sarà il vostro io. Quindi in questo senso l'ego, questo io che vuole agire senza Dio. Quello è l'ego sbagliato, il falso ego. Ma lui che parlerà attraverso la vostra intuizione, ragione e voce. Io profetizzo che quando vivrete e predicherete la mia verità, Satana creerà grandi mali e spingerà un fratello materiale a perseguitare il fratello spirituale. Il padre materiale perseguiterà il figlio spirituale e i figli materialisti si solleveranno contro i genitori che credono nella mia verità e li metteranno nei guai e saranno la causa della loro grande sofferenza e morte. E per voler manifestare la sottile e pura luce dell'intelligenza cristica nelle vostre azioni, non sarete amati dagli uomini materialisti, che sono soliti vivere nell'oscurità dell'ignoranza. Quel devoto che non solo vince per un po' le prove lungo il sentiero spirituale, ma che fino al termine della vita è paziente e sopporta le difficoltà e le tentazioni spirituali e il disappunto di non trovare Dio dopo anni di preghiere e meditazioni, troverà la vita eterna e sarà salvato per sempre dalle altre dure prove e sofferenze che accompagnano gli individui che si rincarnano pieni di desiderio. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. In verità vi dico, non finirete di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Matteo, sempre dal libro 10, verso il 23. E quando vi perseguiteranno in una città, prendete la via di minor resistenza e della mansuetudine divina e fuggite in un'altra città a predicare il suo messaggio. E non finirete di predicare nelle città di Israele finché le parole e il messaggio proclamato attraverso il mio corpo, figlio dell'uomo, non sarà conosciuto su tutta la terra. Ammoniti a non usare i poteri divini in modo spettacolare. Con queste parole Gesù istruì i discepoli a farsi guidare da Dio e a usare il suo potere per fare solamente cose buone. Gesù ammonì i discepoli a non usare il potere divino in nessuna maniera spettacolare. Ecco perché disse: «O amati discepoli, quando la gente vi perseguiterà perché predicate il mio messaggio in una città, usate il vostro senso pratico e la mansuetudine divina». Vedete, mansuetudine lo usa qua perché Gesù è mansueto. «Per seguire la via di minore resistenza e fuggite e predicate in un'altra città, poiché in verità con l'onniveggente potere della visione spirituale io profetizzo e dichiaro a voi che vi ci vorrà molto tempo per predicare il mio messaggio nelle diverse città di Israele e continuerete a farlo finché il figlio dell'uomo o il mio corpo e il suo nome e la sua opera non diventeranno pienamente conosciuti sulla terra. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. Basta al discepolo essere come il suo maestro e al servo come il suo padrone. Se ha ben chiamato Belzebul, il padrone di casa, quanto più i suoi familiari». Matteo dal capitolo 10. Nelle suddette parole Gesù enfatizza che la persecuzione dei suoi discepoli sarà grande, se non più grande di quella che egli stesso subirà. Perciò dice: «Miei cari, voi sapete che anche un discepolo simile al maestro non è onorato come il maestro. Non importa quanto il discepolo sia spiritualmente avanzato, né un servo glorificato e mai considerato grande quanto il suo padrone. È spiritualmente sufficiente davanti agli occhi di Dio che il discepolo diventi uguale al maestro e il servo diventi potente come il suo padrone. Ma la stessa cosa non vale davanti agli occhi degli uomini. Ora, se le persone mondane e i farisei hanno chiamato Belzebul, principe dei demoni, il padrone di casa degli insegnamenti cristici, quanto più criticheranno tutti voi che siete seguaci della verità rivelata nella coscienza cristica? Non li temete dunque, perché non v'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e che quel che vi è stato detto all'orecchio, predicatelo sui tetti. In queste parole Gesù dice ai suoi discepoli che anche se dovranno essere umili e mansueti, seguendo il corso di minor resistenza, essi dovranno parlare impavidamente delle verità nascoste, anche se la loro spiegazione e novità potrà suscitare un terribile criticismo da parte dei malvagi e degli ignoranti. Per amore dei sinceri ricercatori, tutte le verità nascoste devono essere rivelate per il loro beneficio. Miei amati, siate mansueti, ma non temete i vostri critici. Per amore dei sinceri ricercatori, alla cui coscienza risvegliata devono essere rivelate tutte le verità nascoste dallo sguardo delle persone spiritualmente ignoranti. Non c'è saggezza che possa rimanere per sempre celata o nascosta dalla coscienza risvegliata e dalla fame spirituale del devoto. Tutte le cose, tutte le verità che tutte le persone ignoranti e spiritualmente tenebrosi non possono percepire, saranno percepite da quelli che si sono sviluppati nell'autorealizzazione intuitiva. Tutte le verità che vi dico nell'oscurità della segretezza e che sono nascoste dallo sguardo di tutti, vi chiedo di rivelarle con la luce della vostra autoconoscenza, affinché altri devoti altamente evoluti possano percepirle comprensibilmente. E tutte le verità che ascoltate da me e tutte le verità che attraverso la mia intelligenza cristica rivelerò nelle vostre intuitive orecchie interiori per l'uso pubblico, potete predicarle a voce alta e a tutti senza distinzioni. Parlate nella luce. Vi dico ancora che tutte le verità esoteriche che faccio vibrare dentro di voi nel segreto della vostra anima, voi dovete trasmetterle ad altre anime che sono nella luce e che sono già spiritualmente avanzate a motivo del loro buon karma passato. E tutte le verità generali che ascoltate dalle mie parole potete predicarle ad alta voce da tutti i palchi, dovunque siate, davanti allo sguardo del pubblico. Bisogna notare che Gesù chiese ai suoi discepoli di diffondere due tipi di insegnamenti. Primo, i più alti insegnamenti segreti a persone scelte spiritualmente avanzate. Secondo, gli insegnamenti generali per tutta la gente. Ecco, ci possiamo fermare qui e spero che, come per le mie orecchie e anche per le vostre orecchie, queste letture siano state ispiranti, e con questo vi auguro ogni bene e ci vediamo al prossimo incontro. Arrivederci. Gli audio da YouTube su Letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a Letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. Rema nella direzione giusta, scegli Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Con noi è meglio. Il mondo di Sofia Meyel. Buon ascolto in esclusiva su Letteralmente Radio Yoga Network con Nadia Mirasoli. No ragazzi, davvero, siamo qua ancora, non resistevamo lontano da voi. Eccoci qua, ascoltateci. No, più che altro io avrei bisogno, Renzo però ci deve informare, mio Renzo Samaritano, mio fratello. Voglio le opinioni del pubblico, perché devi sapere Nadia, ieri sera, questa notte, io sono uscita per fare il mio lavoro per il comune, l'UDS, parcheggiato il furgone, prendo la macchina e vado verso casa. Io sono fidanzata felicemente da 7 mesi e per mia, non lo so, mia, chiamatemi stupida o quello che volete, io sono molto molto molto fedele, ci credo. E mi dà anche soddisfazioni essere fedele. Comunque niente, alla fine al semaforo vedo che scende un ragazzo che è l'ex di una mia amica di 20 anni fa. Ecco, però ci siamo ribeccati perché lui, insomma, mi ha sistemato l'auto e conosce il mio fidanzato, tra l'altro hanno lo stesso nome. Lui mi ha salutato, poi dopo si è rigirato e ha capito che ero io ed mi è venuto incontro. Praticamente ci ha provato spudoratamente. Immaginate cosa poteva fare la papessa. Gli ho detto: guarda, io ti voglio bene come un grande amico, ma devo andare, anche perché tu già sai che sono fidanzata. E lui ha detto: no, ma dai, ti prego, un caffè, a luna di notte il caffè, così non dormo più. No, la dico, guarda, la vita è lunga e abbiamo tempo per tanti caffè, ma da amici. Bene, voglio una vostra opinione. Io penso di aver fatto bene, ma un uomo che fa così conoscendo il mio fidanzato, ok, lui gnocco, diamo a Cesare quello che di Cesare, gnocco, tutti e due, ma anche se per me è più gnocco il mio, penso, se ci prova con me che sono fidanzata, potrebbe provarci con un'altra se lui fosse già fidanzato. Ah, certo. Come la vedi, Nadia? Ah, certo. È così. È così. E quindi manco l'idea, il pensiero di dargliela, quello no. Cioè, proprio per la serie ho detto: ma vedi che stronzo, sa che io sono innamorata persa del mio cuore, del mio sole. Nadia, insomma, mi manca il mio amore. Quindi, insomma... E lamentati, lo vedi oggi. Cosa vuoi dalla vita? Vedo sempre, diciamo che troppo. L'attesa è sempre un po' di sofferenza, c'è sempre nell'attesa, no? Sì, quel infatti, piacere, dolore. Tra poco collasserò sul tuo letto meraviglioso e io ronferò. Mezz'oretta poi si va in palestra, eh? No, amore, non credere. No, più che altro, ragazzi, io voglio una vostra opinione. Cioè, questa cosa mi ha un po' scioccato perché un mio amico da 20 anni, sapevo che lui aveva delle voglie, insomma, peccaminose con me, ma l'ho sempre bloccato. Ma cazzo, adesso che sai che si può dire la parolaccia con Cina? Oddio mio! Già, adesso che sa che sono fidanzata, felicemente ci provi spudoratamente, mi ha presa, mi ha dato un bacio a stampa, io no, peccato che non avevo un rutto in quel momento, gliel'avrei fatto. Ah, l'ho fatto una volta, uno mi voleva baciare, io no, non mi baciare, mamma mia, te l'avevo detto. Sono cose che succedono, niente, quindi i rapporti d'amore vanno rispettati, non c'è cosa più grande, più di soddisfazione quando sai aver rispettato l'altra persona che non saprà mai questo. Già, va bene, dopo queste perle di saggezza sentimentale, no, io non vedo l'ora adesso ho voglia di lui, ragazzi. Eccoci. Oh, cosa posso fare mia. Per calmare i bollori? Vai in palestra. E oltre i bollori? E fatti una doccetta fresca. Amore, madonna mia. Renzo, dove sei? Meno male che c'è Nadia, mia sorella. E niente, questa è una cosa che mi ha lasciato un po' così e via. Comunque vi dico che a fine novembre, quindi avete tempo 2 mesi, ci sarà il Divergenti Festival del cinema transgender al Lumière. E vi raccomando, seguite la pagina Meet, soprattutto cliccate le mie canzoni. Basta digitare Sofia Meiel, M-E-H-I-E-L, oppure Sofia La Papessa su YouTube, mi trovate. E tra l'altro adesso stiamo lavorando per un nuovo singolo, ma in italiano. Tra l'altro su YouTube voglio mettere anche le puntate quando siamo state su Rete 4, Nadia. Ah, sì! Ricordamelo, certo, sì, no, devo certo. Metterla così. Fa tutto un po' di audience. E niente, adesso questo mese, ottobre, dovrei essere per una nuova pellicola. E poi per gennaio c'è un'altra pellicola da girare su nel Trentino Alto Adige. E tiro la tirolese. Ragazzi, dite qualcosa, ma che mortorio! Ciao! amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Ricordo che chi volesse ricevere informazioni su questa rivista può scrivermi ai seguenti indirizzi: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031 Dolo. Oppure scrivere una email a radionotizie@hotmail.com. Inoltre vi consiglio di visitare la pagina web all'indirizzo https://aer.org/radionotizie. Lo scorso 25 aprile si è svolta la tradizionale giornata marconiana del 2021 e per il secondo anno consecutivo l'evento si è tenuto online. Nell'intervento di apertura il presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, il professore Giovanni Emanuele Corazza, ha ricordato due momenti significativi della lunga carriera di Marconi a distanza di 90 anni esatti. L'inaugurazione della stazione radio di Città del Vaticano, alla presenza dell'inventore e di Papa Pio XI, e l'accensione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, mediante segnali radio inviati da Marconi stesso da Roma, mediante la stazione radio di Coltano. Quest'ultimo evento sarà rievocato con una serata in corso di programmazione per la metà del mese di ottobre, che vedrà la collaborazione tra la Fondazione Marconi MIPACT, Comune di Sasso Marconi e le autorità brasiliane. Il presidente ha anche ricordato il decennale del Marconi Institute of Creativity e presentato il progetto di riorganizzazione ed espansione del nuovo museo di Marconi, che è parte fondamentale del programma di iniziative che si prevede di preparare entro il 2024, anno in cui si celebrerà il 150° della nascita del grande inventore emiliano. Ha poi preso la parola l'assessore alla cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore, che ha sottolineato il ruolo di Bologna in ambito scientifico, tanto nel passato, in cui domina la rivoluzione fatta da Marconi, quanto nel futuro, in quanto sarà al centro di una rivoluzione nella capacità di calcolo a livello nazionale ed europeo. Un rilancio della figura di Marconi in ambito turistico è dunque un impegno strategico per Bologna, città metropolitana. E di tale impegno ha parlato anche il consigliere comunale Marco Piazza, esponendo un importante ordine del giorno del Consiglio Comunale di Bologna, approvato all'unanimità lo scorso 25 gennaio, rivolto a promuovere un progetto di ampio respiro per la valorizzazione della figura di Guglielmo Marconi. Sono poi seguiti i gratitissimi saluti di Elettra Marconi e del figlio Guglielmo Giovannelli Marconi di Roma, che hanno espresso la vicinanza alla Fondazione Marconi con l'auspicio di un ritorno in presenza della prossima edizione della giornata di Marconi. Keynote speaker è stato Vin Cerf, chairman della Marconi Society, il quale ha presentato le attività della prestigiosa istituzione che rappresenta attraverso l'apporto dei suoi fellows, che sono grandi figure nel mondo delle telecomunicazioni, ed ha esposto le linee principali dei programmi connessi alle sfide del futuro nel campo dell'informazione e comunicazione. Ha quindi preso la parola Stefano Pileri, presidente del quadrato della radio e amministrazione delegato di Italtel, il quale ha sottolineato il contributo delle telecomunicazioni per le esigenze imposte dalla pandemia, nel mondo del lavoro, in quello dell'educazione e nel settore della sanità del territorio, ed evidenziato la centralità della sostenibilità e dell'inclusione nei programmi che segneranno la ripresa. Il professor Gabriele Falciasecca ha introdotto il suo intervento con il ricordo di Giancarlo Corazza, la cui scomparsa nell'ottobre del 2020 era stata sottolineata in apertura dall'attuale presidente. Il professor Falciasecca ha svolto un intervento di carattere storico basato su quanto emerso in un documento autobiografico marconiano, recentemente tradotto e pubblicato nel volume Guglielmo Marconi, Memorie, 1895-1899, curato dallo stesso Falciasecca. Gianluca Bazzini, direttore di Lepida, che per chi non lo sapesse è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazione degli enti collegati per garantire l'erogazione dei servizi informatici. Ha centrato il suo intervento su 10 punti chiavi per lo sviluppo del prossimo decennio, con l'obiettivo di un sistema efficiente grazie all'ICT, che ha sottolineato quanto innovativo e creatività debbano essere centrati. In chiusura, il sindaco di Sasso Marconi ha sottolineato la proficua collaborazione di Nessere con la Fondazione Marconi e sottolineato l'importanza della figura di Guglielmo Marconi in chiave di ricordo storico, ma soprattutto in chiave di ispirazione per le sfide che ci attendono nella fase di ripartenza e nella rinascita. Anche per questa settimana la trasmissione è finita. Chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto oppure proporre argomenti per la trasmissione può indirizzare le richieste a Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia, oppure inviare un'email a radionotizie@hotmail.com. Inoltre ricordo di visitare la pagina web al seguente indirizzo: www.aer.org.es/radionotizie. Anche questa settimana la trasmissione dedicata al radioascolto è terminata. Aspettandovi la prossima settimana, vi saluto, Dario. Con voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, radioyoganetwork@gmail.com. E ti senti in forma. Da questo momento, fino al termine della trasmissione, Yoga Network rimane Yoga Network, letteralmente radio diventa Radio Eco One. AM 1450 kHz. radioeco.one@gmail.com. Eco è scritto con la H dopo la C. Buon ascolto. The Shortwave Radio Audio Archive, SRAA, is a collection of shortwave radio recordings that you can download or listen to as a podcast. The collection grows every day and includes both historic recordings and current recordings from the shortwave radio spectrum. The goal of this site is for shortwave radio enthusiasts to have a place to store, archive, and share their radio recordings with the world. shortwavearchive.com. En Corea, los titulares de los principales portales, periódicos y otros medios de comunicación se han llenado de artículos y comentarios sobre la actriz coreana Yoon Yo-jung al convertirse la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por su personaje en la película Minari, quien hizo historia al ser la primera coreana en llevarse la estatuilla de oro. Bueno, pues los focos han recaído en saber en qué consiste tan prestigioso galardón, no solo en términos honoríficos, sino en saber qué conlleva el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a nivel más tangible. Evidentemente, los ganadores del Oscar se llevan la estatuilla chapada de oro de 24 quilates, de un peso de 3,8 kilos y de 34,3 centímetros de altura, que se estima que costaría unos $400. Aparte del trofeo, no hay más premios oficiales, pero la agencia de marketing Distinctive Assets regala a todos los nominados un premio especial que se conoce como Oscar Swagbag, que podría ser como una especie de premio de consolación para aquellos que no han llegado a ser galardonados. Este paquete contiene todo tipo de caprichos y suele estar valorado en $200,000. Teniendo en cuenta que la estatuilla de oro tiene un valor de unos $400, parece que el Oscar Swagbag podría sonar incluso más apetecible para aquellos que prefieren algo más práctico. Según Lash Farri, fundador de Distinctive Assets, la bolsa de regalos de este año está valorada en $205,000 y la integra un paquete con el tema Un año preocupante por la pandemia para hacer que sea algo más que un saco de artículos gratis. Este año el Swagbag contiene diversos artículos y servicios relacionados con la salud, entre ellos sesiones de vitaminas para la piel a domicilio, una lipoescultura en Arlib, una prestigiosa clínica de cirugía estética de Los Ángeles, una diadema rastreadora del sueño de Muse S, que, como su nombre indica, se encarga de monitorizar el sueño para mejorar el descanso. Entrenamientos personalizados, 10 sesiones con el famoso entrenador Alexis Seletsky, un procedimiento de liposucción con el cirujano plástico Dr. Thomas Su, además de una estancia de 3 noches en Suecia, en el faro de Paternoster, un complejo vacacional de lujo, una estadía de 4 noches en el spa Golden Door, que ha sido votado como el destino de relax número 1 del mundo, y sofisticadas galletas y dulces, entre otros. Tal como reza el lema de estos excelentes regalos, con el swagbag, parece que todo el mundo gana los Oscar. ¿Qué mejor que una vida sana sin preocupaciones de salud, no? Pues escuchen, si consiguen completar un mapa del genoma humano de los coreanos, llegará una era en la que se podrán curar todo tipo de enfermedades, desde cáncer hasta enfermedades poco comunes. Estas son las palabras de Park Jung-hwa, profesor de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, al anunciar que ha completado el llamado proyecto de genomas de 10.000 personas de Ulsan, donde se ha descifrado la información del genoma de 4.700 personas saludables y 5.300 con problemas de salud. Es decir, han logrado descifrar el genoma, una secuencia de nucleótidos que compone el ADN de un individuo con toda la información genética, de un total de 10.044 coreanos. Se preguntarán para qué sirve esto en concreto. Pues imagínense que alguien tiene cáncer. Si se pudiera confirmar en qué secuencia de ácido nucleico ha habido una mutación en la célula causante del cáncer, en comparación con una célula normal, permitiría diagnosticar o curar el cáncer. En otras palabras, mediante los genomas podría verse el mapa de vida de un individuo. Por este importantísimo motivo, Park subraya que debe haber un mapa de genomas estándar de los coreanos. Hasta ahora, solo países como el Reino Unido, Estados Unidos y China han logrado completar el mapa de genoma de más de 10.000 personas en cada país, tarea que requiere mucho presupuesto y dedicación humana. En el proyecto de BAC, que comenzó en 2015, se han invertido alrededor de 18.000 millones de wones, unos 16.158.000 dólares estadounidenses. Este proyecto, dirigido por el profesor Park, tiene especial importancia, pues supone una base de datos sobre información de la mutación genética estándar de los coreanos. Ahora el equipo de Park se centrará en analizar a fondo este mapa de genomas y también planea elaborar el mapa de 100.000 coreanos para investigar las enfermedades genéticas más comunes de este pueblo y aportar para que Corea goce de una vida más sana. Ahora escuchamos ADN de BTS y volvemos tras una pausilla. Yeah. Coreanos. ¿Qué tal, amigos? Soy Clara Kim. Otro jueves más tengo el gusto de saludarles a través de este capítulo de Cuentos Coreanos. En esta ocasión les traigo uno titulado El cielo sabe lo que hace y nos enseña que todo en la vida tiene su razón de ser. Veamos de qué trata. Érase una vez, en una remota aldea, vivía un viejo campesino que se dedicaba a cultivar sandías. Cuando llegó el verano, que era la época de la cosecha, el campesino se fue a su huerta cifrando grandes expectativas de poder recoger una gran cantidad de estas frutas. Pero aunque se pasó el día entero cortando las frutas maduras, contrariamente a su deseo, ese año no hubo buena cosecha y solo pudo recoger unas cuantas. Como podemos imaginar, el buen hombre quedó muy decepcionado ante tan pobre cosecha, pues había esperado un año entero para obtener buenos ejemplares y venderlos en el mercado. En esas, de repente, levantó la vista y descubrió un gran árbol de bellotas. Para su admiración, todas las ramas estaban repletas a más no poder de centenares. No, que digo, de miles y miles de bellotas. Al ver el árbol tan abundantemente provisto, se sintió repentinamente molesto y exhalando un profundo suspiro, se lamentó. ¡Oh, qué injusto es el cielo! ¿Cómo es posible que aquel árbol que nadie ha cuidado esté tan lleno de bellotas? ¡Qué bueno sería si en vez de bellotas, de sus ramas colgaran miles de redondas y jugosas sandías! Apenas terminó de decir esto, apareció una pequeña ardilla de color marrón. Luego de trepar ágilmente por el árbol de bellotas, se adueñó de una. Seguramente la tomó para llevársela y comérsela más tarde. Pero al moverse, se le escapó de las manos y el fruto cayó del árbol. La bellota que había cogido la ardilla rodó por las ramas y finalmente cayó en la frente pelada del campesino. Este último, sorprendido por el involuntario ataque del pequeño roedor, no pudo evitar lanzar una exclamación de dolor. Y en ese instante fue cuando se dio cuenta de una gran verdad. Frotándose la dolorida frente con las manos, el buen hombre se dijo a sí mismo: Vaya, el suelo es mucho más sabio que yo. ¿Qué habría pasado si en lugar de bellotas de aquel gran árbol hubieran colgado sandías y una de ellas hubiera caído sobre mi frente? No quiero ni imaginármelo, pues como mínimo me habría roto la frente. Esta idea le hizo reír y despejar para siempre su disgusto y la envidia que sintió alguna vez por la abundante cosecha del árbol de bellotas. Tal como nos enseña este cuento titulado El cielo sabe lo que hace, muchas veces esperamos que la vida transcurra según nuestros deseos. Sin embargo, en todo, hasta en las más pequeñas cosas, hay una razón de ser. En otras palabras, todo tiene su fundamento, o sea, un motivo por el cual es una u de otra manera. Por consiguiente, en lugar de delegar la responsabilidad o echar la culpa a otros, debemos esforzarnos por reconocer debidamente nuestra realidad y dar lo mejor de nosotros cada día, agradeciendo lo que tenemos y la situación en la que nos encontramos. Así termina esta entrega de cuentos coreanos. En la próxima edición los espero con otro interesante cuento tradicional de este país. Chao, chao. World Radio. Están escuchando Corea Diario en la voz de Chisuan. ¿Creerían que una sola persona ha logrado vender unos 140 millones de wones, unos 125.673 dólares estadounidenses de pollo frito en tan solo 90 minutos? Bueno, pues esa meta fue lograda por la marca coreana de servicio a domicilio Pedal Minjok con el lanzamiento de un servicio de compras de transmisión en vivo. No es exagerado decir que fue un solo empleado el que consiguió tal rendimiento, porque precisamente la persona que vendió el menú fue un DJ. Este es un término tomado del inglés, broadcasting jockey, que alude a una persona que ofrece y conduce cierto tipo de contenido mediante la transmisión a través de una plataforma, en este caso sobre comida. La firma contrató a un DJ especializado en transmisión de sonidos de respuesta sensorial meridiana autónoma, o en términos más fáciles, que ofrece una experiencia subjetiva de euforia de bajo grado, caracterizada por una combinación de sentimientos positivos y una sensación de hormigueo estático en la piel, que más comúnmente es desencadenada por estímulos auditivos o visuales. ¿Y qué mejor vendedor que un DJ que opera un canal de sonidos a la hora de comer para seducir todos los sentidos posibles de un consumidor? 90 minutos fueron suficientes para que el DJ comiera pollo frito frente a aquellos conectados al servicio en vivo y conseguir una venta de cupones de pollo frito equivalente a 125.673 dólares. El éxito de esta fórmula comercial deriva de la fácil accesibilidad al servicio, la interacción en vivo entre el DJ vendedor y el consumidor intercambiando comentarios en tiempo real, así como apuntar especialmente a los consumidores jóvenes, cuyo estilo de consumo está optimizado para realizar las compras a través del teléfono móvil. Las generaciones jóvenes están más acostumbradas a comprar mediante el móvil en lugar del ordenador o el televisor. Y estos dan mayor importancia a la diversión y a la experiencia indirecta en el proceso de compra, a diferencia del estilo convencional donde la compra era unilateral. Se estima que el volumen del mercado de comercio mediante transmisiones en vivo crecerá de 359 millones de dólares el año pasado a 2.513 millones de dólares este año, hasta llegar en 2023 a los 8.976 millones de dólares. Es por eso que las firmas que se están lanzando a este mercado son de tecnologías de la información más que las compañías de logística. El sector de tecnologías de la información prevé que las transmisiones comerciales en vivo serán el principal negocio del sector de gastronomía en el futuro. ¿Qué es una familia? ¿Quiénes la integran? El diccionario de la Real Academia Española define el término como grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Pero demos un paso más. La palabra emparentadas, según la RAE, indica contraer parentesco por vía de casamiento. Pues esta definición hoy en día tal vez no sea aprobada por todos porque muchos optan por contraer este vínculo, no necesariamente mediante casamiento para conformar lo que en general entendemos como familia, aunque también hay que tener cuidado con generalizar. La definición de familia, según el portal más utilizado en Corea, Naver, también dice que una familia es un grupo social de consanguíneos que conviven bajo el núcleo principal formado por una pareja casada, formada en concreto por un hombre y una mujer. Tal vez partir de conceptos claros sobre lo que es una familia, una pareja, sus integrantes, entre otros, pueda ayudar a pensar sobre lo que en Corea se ha convertido recientemente en una patata caliente. Y es que Sayuri, una celebridad japonesa que actúa en Corea, dio a luz el año pasado a un bebé utilizando técnicas de reproducción asistida, pues quiso tener un bebé como madre soltera. Sayuri llevó a cabo el proceso mediante un banco de esperma en Japón, donde este tipo de concepción es legal, pero está causando polémica en Corea, país donde ella trabaja y donde la reproducción asistida se usa básicamente para tratar la infertilidad, por lo que hay voces que critican su comportamiento ético-social. El Ministerio de Igualdad de Género y Familia anunció el pasado martes que está planeando llevar a cabo investigaciones y debates a nivel social sobre la concepción en madres solteras mediante reproducción asistida, al ser un caso que ha salido a luz recientemente y por tanto no existe una ley que prohíba este tipo de procedimiento. En concreto, la ministra Song Yong-hee dijo que hay que abordar la realidad actual además de leyes y conceptos como el derecho de un individuo a optar por este tipo de parto o la ampliación de la diversidad de tipos de familia, entre otros, al ser temas que conllevan puntos controvertidos en términos legales, morales, médicos y culturales. Para adoptar medidas específicas, el gobierno llevará a cabo una encuesta nacional sobre el uso de reproducción asistida para madres solteras, además de impulsar una revisión de la ley actual que reconoce como familia el casamiento, los lazos de sangre y la adopción. Añadió que el nivel de aceptación del parto de una madre soltera sin estar casada se ha elevado hasta un 55% entre los veinteañeros y un 56% entre los treintañeros, por lo que se esforzará en crear medidas para que todas las familias puedan recibir cobertura. Pues me despido de ustedes con esta canción de Isora titulada Shin Chong-guk, canción solicitada. Hasta el próximo encuentro. the matter jammed in the bus. Spec banana toy and then I could the up at the and action the sun. I get to me a joke, I get jack and they get contributed. They run a family, yeah, they don't jump shit. She a gaggle for day. I'm getting mad the way to omen. I'm on to just day. She walk it here, some new. Coreano en dramas. 안녕하세요. Bienvenidos a esta aula de coreano práctico que les ofrece KBS World Radio. Yo soy Clara Kim y la que escuchan es otra clase de coreano en dramas. Esta semana vamos a aprender una expresión útil para cuando querramos definir una relación. ¿Intrigados por saber de cuál se trata? Pues primero escuchamos el diálogo que la contiene. 네, 대표님. 10분으로 가겠습니다. 네. 죄송한데 제가 선약이 있어서요. 퇴근 후 약속이라. 두 분 신분이 꽤 두터운가 보네요. 네. 황 대표, 어떤 분인지 알고 만나는 건가요? 아, 뭔가 오해가 있으신 것 같은데 대표님이랑 저 아무 사이 아니에요. 현주, la protagonista, está en un café. Junto a ella se encuentra la presidenta Kim, una ambiciosa mujer de negocios que tiene fichado a Chiu como su futuro yerno. De repente suena el teléfono de Hyunju, por lo que esta contesta. De, 대표님. 10분 내로 가겠습니다. De. Sí, señor. Estaré allí en 10 minutos. Sí. Después de cortar la llamada, la joven se dirige a su interlocutora para decirle... 죄송한데, 제가 선약이 있어서요. Le pido que me disculpe. Es que tengo un compromiso. La presidenta Kim percibe que es Chiu el que ha llamado a Hyunju y que entre ambos hay algo más que una simple relación de trabajo. Así es como insinúa. 퇴근 후에 약속이라. 두 분 신분이 꽤 두터운가 보네요. Una cita después del trabajo. Parece que ambos han entablado una profunda amistad. Desconcertada por las palabras de la mujer, Hyunju reacciona con un... ¿De? ¿Perdón? Entonces su interlocutora prosigue. 황 대표 어떤 분인지 알고 만나는 건가요? ¿Está saliendo con Hwang Ji-woo a sabiendas de qué tipo de persona es él? Finalmente Hyunju trata de dejar en claro su relación explicando. 뭔가 오해가 있으신 것 같은데. Ah, creo que aquí hay un malentendido. 대표님이랑 저 아무 사이 아니에요. No hay nada especial entre el señor Hwang y yo. Habiéndoles desglosado frase por frase de esta conversación, ahora escuchamos la expresión de esta semana. La frase que nos ha tocado aprender esta vez es Amus ahí anieo y la tradujimos como no hay nada especial entre nosotros. La volvemos a escuchar. Amus ahí anieo. Amus ahí, anieo, le dice Hyunju a su interlocutora al ver que esta sospecha que hay algo más entre ella y Chiu. Este enunciado empieza con amu, que en español equivale a cualquier, o cualquier cosa, o lo que sea. Y se usa generalmente en oraciones negativas. Por ejemplo, amu no re, cualquier canción de chico. En tanto, ahí es un sustantivo que corresponde a relación. Por último, anieo, anida en su forma básica, se usa para negar todo lo que le antecede. Consecuentemente, amus ahí, anieo, se usa para indicar que no existe una relación especial entre dos personas. Con relación especial, generalmente nos referimos a una relación amorosa. Y por consiguiente, esta frase se usa para poner en claro que no hay nada en particular en una relación y que solo se trata de simple amistad o una relación de trabajo. Por lo general, es la persona que recibe dicha sospecha la que aclara diciendo Uri, amus ahí, anieo. No hay nada especial entre nosotros. Uri, 그냥 친구예요. Somos amigos, nada más. Hacemos una pausa para escuchar nuevamente la frase de esta semana. 아무 사이 아니에요. Hoy aprendimos esta expresión que significa no hay nada especial entre nosotros. Síganla practicando, ¿de acuerdo? Para más información visítenos a nuestro sitio web world.kbs.co.kr/spanish. ¿Yorobun, suéstayo? de la península coreana. El martes 27 fue el tercer aniversario de la primera cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un en la aldea de la tregua de Panmunjom. El 27 de abril de 2018, los mandatarios de las dos Coreas afirmaron una declaración conjunta, aseguraron que no habría más guerras en la península coreana y proclamaron la inauguración de una nueva era ante 80 millones de coreanos y la comunidad internacional. En junio de ese año, Corea del Norte y Estados Unidos celebraron una histórica cumbre en Singapur y en septiembre el sur y el norte organizaron otra cumbre bilateral, donde emitieron la declaración conjunta de Pyongyang. Entonces parecía soplar viento de primavera en la península coreana, pero desafortunadamente la tensión volvió a aumentar en la región en febrero de 2019 tras la fallida cumbre de Hanoi entre Pyongyang y Washington. Desde entonces, las relaciones intercoreanas permanecen estancadas, mientras que la coyuntura diplomática en torno a la península coreana es bastante sombría. En este contexto llama la atención si la próxima cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos prevista para mayo servirá de punto de inflexión para reavivar el clima de conciliación de hace 3 años. Esperando que vuelvan a soplar vientos de cambios positivos en Corea, comenzamos la nueva era de la península coreana. Durante el octavo Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, celebrado en enero, el régimen norcoreano anunció su plan quinquenal de desarrollo económico. En particular, llamó la atención su meta de construir 50.000 viviendas en Pyongyang durante los próximos 5 años. El comentarista político Choi Young-il analiza por qué el norte se aferra tanto a la construcción de casas residenciales en medio de una grave crisis económica por la pandemia de coronavirus y las sanciones internacionales en su contra. 1년에 한 만 세대씩 5년간 평양에 5만 세대 살림집을 건설한다. Durante el Congreso del Partido de los Trabajadores celebrado en enero, el líder norcoreano Kim Jong-un anunció el plan de construir 10.000 nuevas viviendas al año durante los próximos 5 años. Los principales medios norcoreanos dedicaron bastantes páginas a cubrir la noticia, supuestamente para promocionar que Kim se esfuerza por mejorar la economía y la vida del pueblo. El régimen norteño está abocado a construir viviendas por el riesgo latente de perder la confianza y el apoyo de sus ciudadanos al prolongarse la crisis económica. El comercio exterior continúa bloqueado en el norte, tanto por las estrictas medidas de prevención del COVID-19 como por las sanciones internacionales en contra, y como resultado, la economía norcoreana va de mal en peor. Como las obras de construcción son proyectos que el norte puede acometer por cuenta propia, el régimen las promueve y también promociona como uno de sus grandes logros económicos. Corea del Norte ha creado nuevas áreas residenciales en Pyongyang desde la llegada de Kim Jong-un al poder. Por ejemplo, inauguró la calle Changjeon en 2012, la calle de Científicos Mire en 2015 y la calle Ryomyong en 2017. Actualmente lleva a cabo una obra de construcción de altos edificios de apartamentos que albergarán 16.000 hogares. Es parte de los esfuerzos del régimen norcoreano por lograr la meta de construir un total de 50.000 viviendas nuevas durante el próximo lustro. Según datos de la CIA, un 12% de la población norcoreana se concentra en Pyongyang. En 1951, durante la Guerra de Corea, el norte trazó un plan para restaurar Pyongyang, la capital, pues parte de esta ciudad quedó devastada por los bombardeos del ejército estadounidense. Al terminar la guerra, la Unión Soviética, China y otros países de Europa Oriental brindaron apoyo a Corea del Norte para mejorar Pyongyang de cara a promocionar el socialismo. Los edificios de esa época son ahora viejos y gastados. Desde finales de los años 80, la situación económica del norte no hizo más que empeorar y no pudieron reemplazar las antiguas viviendas por otras nuevas. Hace 10 años, el régimen norcoreano propuso un plan de restauración urbana para construir 100.000 viviendas, pero tampoco pudo concretarlo. La clara escasez de viviendas en Pyongyang es uno de los retos más urgentes para el régimen de Kim Jong-un. En tanto, Corea del Norte también comenzó una reconstrucción de 800 viviendas de lujo alrededor del río Putong, en el centro de Pyongyang. Esta zona es considerada un barrio de ricos, donde reside gran número de altos funcionarios del gabinete o del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un anunció que regalaría esas nuevas viviendas a los ciudadanos que hayan mostrado gran dedicación y sacrificio por el Estado y el partido. El régimen norcoreano asegura que el objetivo de construir viviendas ribereñas en Pyongyang es ofrecer una casa a aquellos ciudadanos que hayan contribuido al desarrollo nacional. Hace poco fue revelado el plano aéreo de esas 800 casas, en principio de buen diseño y en una de las mejores zonas para vivir de la capital. Las autoridades norcoreanas aseguran que esas viviendas de lujo buscan compensar a personas de mérito como científicos, profesores y escritores. Pero en realidad solo un 20% de estas nuevas casas será para esas personas. Supuestamente el resto será para los altos cargos del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Allí vivirán familias de élite que ya gozan de un prestigioso estatus en el país. Norte planea construir 10.000 viviendas hasta el final de año y el próximo año construirá otras tantas. Con esa apretada agenda, los equipos involucrados en las obras de construcción están actualmente inmersos en una carrera contrarreloj. La prensa norcoreana, por su parte, divulga estos días con frecuencia las noticias relacionadas con esa iniciativa para alentar a los trabajadores a esforzarse por completar las obras a tiempo. Pero sobre todo destaca que la entidad a cargo de ese importante proyecto de construcción en Corea del Norte es el ejército. Pyongyang es actualmente símbolo de ciudad socialista planificada. Para mostrar al mundo la excelencia de su capital, Corea del Norte desea construir las nuevas viviendas lo antes posible y la mano de obra que el régimen norcoreano puede movilizar a gran escala es el ejército. Al definir Kim Jong-un el proyecto de construcción de viviendas como un objetivo anhelado y pendiente desde hace mucho tiempo, se ha convertido en una obligación para el norte. En la ceremonia de inicio de construcción de 10.000 hogares en Pyongyang, celebrada en marzo, Kim designó al ministro de Defensa, Kim Jong-un, como jefe del proyecto de construcción. Así señala un responsable directo y líder de esas obras al ejército. En el norte no es infrecuente que Defensa se encargue de ejecutar este tipo de proyectos, pues varias iniciativas nacionales que precisaban velocidad, como la construcción del alcantarillado, han involucrado a los soldados. Hay diversos símbolos que representan a un país, como una bandera, un himno, un emblema o una flor nacional, entre otros. El diseño de billetes norcoreanos contiene varios de estos símbolos. En particular, Corea del Norte comenzó a incluir la imagen del emblema nacional en su billete desde la segunda reforma monetaria llevada a cabo en 1959, para resaltar la identidad nacional. La doctora Lee Ji-sun, del Instituto de Corea para la Reunificación Nacional, comenta en detalle. Corea del Norte comenzó a hacer hincapié en la identidad nacional en sus billetes en 1959, al incluir la imagen del emblema nacional. Creado en 1948, el emblema norcoreano hace un marco oval y en la parte inferior lleva una cinta roja que dice República Popular Democrática de Corea en coreano. En la parte superior sale una estrella roja de 5 puntas que representa a la Revolución Socialista. Debajo figura el Monte Paektu, un lugar sagrado para el pueblo norcoreano, y también una central hidroeléctrica y una torre de hierro que simboliza a industrias y trabajadores respectivamente. Estos elementos están rodeados de las espigas de arroz que representan la agricultura y los agricultores. En tanto, la imagen de la flor nacional de Corea del Norte, la magnolia, fue inicialmente incorporada en la marca al agua para prevenir la falsificación de los billetes. Pero desde la quinta reforma monetaria en 2009, el norte comenzó a incluir flores en sus billetes. La magnolia se incluyó por primera vez en el billete de 100 wones. La moneda de 10 centavos norcoreanos lleva la imagen de azalea, que representa a Kim Jong-suk, esposa del fundador nacional Kim Il-sung. Y las monedas de 50 centavos y de 1 won llevan las flores bautizadas como Kim Jong-ilias y Kim Il-sung-ia, en homenaje a dos difuntos ex líderes. Es decir, las monedas incorporaron flores que son símbolo de los líderes o del linaje de los Kim. Tras la primera reforma monetaria en 1947, todos los billetes norcoreanos llevaban en el anverso la imagen de un trabajador y un agricultor, mientras que en el reverso mostraban los altos picos del monte Paektu. Dicho monte se convirtió en símbolo del fundador y ex líder de Corea del Norte Kim Il-sung, desde que el poeta norcoreano Cho Ki-chon publicara un poema épico titulado Monte Paektu en abril de 1947, a fin de elogiar las actividades guerrilleras de Kim. El monte Paektu es considerado un monte sagrado por los norcoreanos, pero Corea del Norte comenzó a usarlo con fines políticos. Cuando Kim Il-sung intentó tomar el poder en el norte de la península coreana, tras la liberación de Corea del dominio colonial japonés, necesitaba algo que pudiera legitimar su liderazgo. Entonces Kim utilizó el monte Paektu como elemento simbólico para justificar la legitimidad de la fundación de Corea del Norte y también del régimen. 중요한 아이콘이 바로 백두산이라고 할 수 있습니다. Muchos países incluyen imágenes de arquitecturas emblemáticas del país en sus billetes. Los dólares estadounidenses, por ejemplo, muestran la Casa Blanca y el Capitolio, que tienen un simbolismo político. Italia, por su parte, usa la imagen de la Basílica de la Santa Cruz, mientras que China incluye la de la Gran Muralla, en reflejo del orgullo por su historia, cultura, religión o arte. Corea del Norte también ha incorporado imágenes de su arquitectura en los billetes. La Universidad de Kim Il-sung, fundada en 1946 y considerada la primera y la más prestigiosa universidad del norte, apareció por primera vez en el anverso del billete de 5 wones en 1959. En tanto, el Gran Palacio de Estudios del Pueblo, la mayor biblioteca de Corea del Norte, fue incluido en el reverso del billete de 5 wones en 1992. El gran orgullo que sienten los norcoreanos por Pyongyang, su ciudad capitalina, también quedó reflejado en los billetes desde 1959. El billete norcoreano de 10 wones, lanzado en 1959, muestra la puerta Daedong en el anverso y la Torre de la Liberación en la parte posterior. La puerta Daedong y el puente Daedong fueron construidos durante la Guerra de Corea, pero posteriormente Corea del Norte los reconstruyó. Estas dos instalaciones simbolizan la recuperación de la historia y la cultura destruidas por la guerra y también los esfuerzos del norte por construir infraestructuras urbanas básicas. El país norteño decidió presentar dichas instalaciones en su billete para mostrar simbólicamente que Pyongyang había superado los estragos de la guerra para dar un nuevo salto adelante. En tanto, el reverso del billete de 500 wones de 1998 muestra el puente de Cheongryu, el primer puente atirantado norcoreano construido en 1995 para conmemorar el 50 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. La parte frontal del billete muestra el Palacio de Kumsusan, mientras que el reverso presenta dicho puente, mostrando simbólicamente que la ambición de Kim Il-sung de construir una gran ciudad capitalina se había concretado. La siderurgia es la base de la industria socialista norcoreana y es elogiada frecuentemente en diversos contenidos artísticos y culturales. Corea del Norte enfatiza la importancia de este sector también en sus billetes. En 1959, El billete de 100 wones mostraba en el anverso altas chimeneas, trenes que transportan materiales industriales y diversas fábricas como símbolo de la industria siderúrgica. Pero además de la siderurgia, a lo largo de su historia, el norte ha presentado en sus billetes diversos elementos que permitan ilustrar la prosperidad de un país socialista. Hasta aquí escucharon la nueva era de la península coreana que le llegó en la conducción de Isabel Wang. Hasta el próximo encuentro. Nuestra programación de hoy. Pueden seguir disfrutando nuestros contenidos en world.kbs.co.kr o bien enviar sus comentarios y sugerencias a spanish@kbs.co.kr. Mil gracias por su atención. KBS World Radio. Prove tecniche di trasmissione venerdì 30 aprile 2021 per chi ci sta ascoltando in diretta. Radio Echo One, sono le 19:40 minuti, 1710 kHz in onde corte. Prove tecniche, rimanete sintonizzati. Allora, continuiamo a leggere da Karma e Reincarnazione, come le scelte generano il nostro futuro, di Marco Ferrini. Eravamo ancora nella vecchia sede dell'associazione, facevamo le ultime dirette E sono passate molte settimane da allora, così tante da rappresentare forse, non dico qualche mese, ma sono veramente tante settimane di pausa. C'è stato un trasloco di mezzo, si sono persi i segnalibri, c'è l'emozione di una nuova sede, c'è l'emozione dell'inizio di queste trasmissioni onde corte, insomma. Fatto sta che ci siamo dimenticati dove eravamo arrivati con la lettura di Karma e Reincarnazione, quindi abbiamo deciso di ricominciare da zero, ma io credo che comunque secondo me avevamo letto l'introduzione poco di più, anzi direi proprio solo l'introduzione, che comunque vedo che è abbastanza lunga, quindi secondo me oggi leggeremo solo quella. E comunque ricordatevi che sono prove tecniche di trasmissione e che quindi per ora non sono dirette fiume di ore e ore, anzi penso che comunque non faremo più dirette fiume di ore e ore. Credo che sostanzialmente faremo dirette d'ora in poi qui da Radio Eco One una volta al mese in questa nuova sede. E adesso vi dico anche perché dovrei avere qui dovrei avere qui anche il prospetto, per la precisione il primo orientativamente il primo venerdì di ogni mese, quindi quella di oggi, che è una trasmissione che si sta tenendo per sempre per chi ci sta ascoltando in diretta, l'ultimo venerdì di aprile, è una trasmissione così eccezionale di prova, quindi sono prove tecniche nelle prove tecniche, e ce ne sarà una molto probabilmente il primo venerdì in serata o vediamo se terrà, non lo so, dopo cena, non so l'orario. Il primo venerdì di maggio faremo un'altra diretta e poi il primo venerdì di giugno e così via. Però questo orientativamente, ok? Nel senso che cercheremo di fare minimo una diretta al mese, potrebbe non essere di venerdì, quindi magari potrebbe essere di sabato, ma tanto voi sapete che per noi la diretta è un così, è un escamotage per andare così in onda senza dover dire rifacciamo. Siamo in diretta, quindi non si rifà niente. Ormai siamo in diretta, papere, non papere, problemi, non problemi, si tira avanti. È il nostro modo di fare radio da sempre, quindi preferiamo trasmettere in questo modo. Ma poi in realtà quello che ci interessa è la registrazione che rimane al termine della diretta e che poi viene diffusa sui nostri canali podcast, ok? Quindi non importa tanto quando è che faremo le dirette, l'importante è che sappiate che come sempre potrete poi ascoltarle con comodità nel giorno e negli orari che preferite. In teoria, per sempre. Nel mondo occidentale la scienza è oggi ridotta a una disciplina che si occupa quasi unilateralmente delle leggi del mondo fisico, pur valorizzando tutto ciò che l'Occidente con grande merito ha prodotto, si pone urgentemente la necessità di integrare il sapere oggettivo con la conoscenza del soggetto, con la scienza che si occupa del sé, ben espressa nei testi vedici. Questi antichi scritti ci descrivono facoltà superiori che possono essere sviluppate attraverso particolari discipline, allo scopo di giungere a una visione del mondo ben più ampia di quella presentata dalla scienza positiva. Parleremo di karma e reincarnazione riferendoci alle fonti più antiche e autorevoli che hanno elaborato, spiegato e sviluppato tale fenomeno. La comprensione di questi due concetti fondamentali nell'ambito della filosofia e della psicologia antico-indiane ha un'importanza di rilievo per la nostra vita, perché attraverso l'azione karma noi scolpiamo il nostro futuro, che è quindi posto nelle nostre mani. attraverso la conoscenza accompagnata da una pratica che può essere esperita da chiunque nutra sincero interesse per perfezionare la propria vita, si può realizzare come finanche la parola sia in grado di plasmare e modificare lo scenario del nostro oggi e del nostro domani. Il modo in cui agiamo e le motivazioni inconsce che ci spingono all'azione hanno una fortissima incidenza su di noi e sull'ambiente nel quale viviamo, che non è statico ma in continuo mutamento. È quindi importante essere consapevoli di come ogni pensiero, parola e azione siano di straordinaria rilevanza per la nostra vita, in quanto forgiano la situazione nella quale saremo proiettati nel futuro, soprattutto dopo la fuoriuscita dal corpo. Le scelte che di volta in volta compiamo modellano il nostro futuro in maniera diretta e sono frutto di pensieri, immaginazioni, istinti, impulsi e desideri. Tra tutte queste importanti funzioni psichiche, la volontà ha un ruolo speciale. Come strutturarla? È interamente gestita da noi? Siamo in grado di gestirla appieno e di esprimere al meglio attraverso essa desideri, emozioni e sensazioni. Dobbiamo convenire che non sempre è possibile farlo direttamente, dato che talvolta il nostro volere entra in conflitto con l'ambiente circostante, con le persone con cui viviamo, con gli impegni che ci siamo assunti. Non possiamo sempre porre in atto quel che ci viene in mente, ma in ogni caso sarà il nostro volere, espresso o inespresso, che concretizzerà le situazioni nelle quali ci troveremo in questa o nella vita prossima. Come ho avuto modo di ripetere in più occasioni, i due opposti, le due facce della medaglia, non sono vita e morte, bensì nascita e morte, in quanto la vita è da sempre e per sempre e non può cessare di essere in nessuna circostanza. Leggiamo un verso dalla Bhagavad Gita, capitolo 11, verso 20. Per l'anima non vi è nascita né morte. La sua esistenza non ha avuto inizio nel passato, non ha inizio nel presente e non avrà inizio nel futuro. Essa è non nata, eterna, sempre esistente e primordiale. Non muore quando il corpo muore. La morte, dunque, come ben spiegano gli antichi testi della sapienza indovedica, non è un'interruzione o addirittura una cessazione della vita, ma semplicemente una delle innumerevoli tappe nel viaggio della vita. Un viaggio infinito e affascinante, soprattutto per chi è diventato un buon viaggiatore. La trasmigrazione si rivela necessaria perché, giunte a un certo punto, le persone possono essersi talmente identificate e racchiuse nei loro schemi, nelle loro convinzioni, nei loro condizionamenti da rendere indispensabili esperienze psicofisiche nuove che scusa, rinvigoriscano la tensione evolutiva. Dobbiamo un po' cercate di capire che dobbiamo un po' anche capire un attimo le cose più semplici, che voi naturalmente, visto che stiamo trasmettendo in radio e non davanti a una telecamera, non potete vedere, quindi anche solo la sistemazione della luce in questa nuova sede già intuisco che è sicuramente entro la prossima trasmissione in diretta da rivedere. Nel ciclo delle esistenze gli individui trasformano la propria coscienza. Tale ciclo di nascite e morti ripetute, samsara, pur comportando aspetti dolorosi, è utile e necessario allo sviluppo del soggetto, il quale possiede tutta una serie di potenzialità, desideri e debiti karmici che non è in grado di esaurire interamente nell'arco di una sola brevissima esistenza umana. I desideri non ancora espressi, giacenti nella mente profonda sotto forma di seme, potranno attuarsi nelle vite successive. Anche gli effetti delle disarmonie e degli squilibri verranno ritrovati dall'individuo nei corpi cui si rivestirà, appartenenti all'una o all'altra specie. In tal modo si spiega come questo supremo modello di intelligenza karmica costituisca anche una forma di alta giustizia per tutto ciò che avviene nel mondo, altrimenti incomprensibile se valutato dal punto di vista relativo e limitante dell'essere individuale, condizionato da personalità storiche e da una coscienza contaminata. Il tempo brucia velocemente le fugaci stagioni della vita incarnata, come si passa dall'alba al giorno propriamente detto e da questo al tramonto e poi alla notte per tornare di nuovo all'alba, altrettanto velocemente si consuma la giovinezza e ci si ritrova nell'età adulta per poi passare in quella fase che viene definita vecchiaia, dalla quale approdare, dopo la fuoriuscita dell'Atman dal corpo, a un'esistenza successiva. Un altro verso dalla Bhagavad Gita, capitolo 11, verso 13, come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. La persona saggia non è turbata da questo cambiamento. Allo stesso modo trascorre velocemente la primavera per cedere il posto all'estate, la quale confluisce nell'autunno che cede il passo al freddo inverno, a cui seguirà una nuova primavera. È il concetto di rivoluzione che significa tornare dopo un ciclo completo al punto da cui si era partiti. Risulta un automatismo mentale errato, quindi, considerare un neonato come qualcuno che esiste da poco. L'individuo che oggi si trova allo stato infantile è in realtà un essere eterno che porta con sé un bagaglio karmico molto voluminoso che, in un certo senso, ha già determinato la durata e la qualità della sua vita, la quale si svilupperà sui binari tracciati dalle conseguenze delle attività precedenti, che non si vanificano con il corpo, ma seguono la persona oltre la morte. Sovente la morte viene paragonata al sonno, essendo molti i sintomi somiglianti. Se ad esempio ci si corica con debiti contratti, al risveglio, pur rinvigoriti nelle nostre energie dal riposo, continueremo a portare con noi le conseguenze di quel che il giorno avanti abbiamo seminato. Allo stesso modo, nella vita successiva, le condizioni di ciascun individuo dipenderanno in maniera sostanziale dal vissuto precedente. L'elemento psichico costituisce il software per la configurazione complessiva delle cellule del corpo futuro, così come il DNA porta già con sé l'imprinting della struttura fisica. Sono infatti tendenze, desideri e pensieri componenti essenziali del Linga Sharira, o corpo sottile, che determinano lo Stula Sharira, o corpo grossolano. Ancora Bhagavad Gita, capitolo 15, verso 9: ogni volta che si riveste di un nuovo corpo grossolano, l'essere vivente ottiene un particolare senso dell'udito, della vista, del tatto, del gusto e dell'odorato che gravitano attorno alla mente. Egli gode così di una determinata gamma di oggetti dei sensi. Uno, due, tre, prova. Bene, allora io direi che niente, questo non si collega, non so perché. Volevamo fare anche un esperimento di collegamento in diretta con Telegram, perché c'è anche questa novità qui. Avrete sentito che facciamo delle dirette anche su Telegram, e quindi volevo qui all'interno di queste dirette su piattaforma Spreaker riuscire a fare anche questa cosa, ma vedo che non è possibile. Ok, allora, dunque, io direi che ci fermiamo qui. Erano prove tecniche di trasmissione, quindi l'importante era capire se e come avremmo potuto proseguire qui dalla nuova sede. Direi che funziona tutto tecnicamente. Poi, naturalmente, essendo prove, abbiamo fatto mille papere, perché poi io, tra l'altro, a parte i problemi di illuminazione che adesso penso di aver più o meno risolto, come ho messo la luce adesso va molto meglio, ho avuto problemi anche di audio, perché in cuffia mi arrivava la mia voce un po' dopo e quindi questo mi incasinava un po' mentre leggevo, mi distraeva dalla lettura. Comunque, per chi ha ascoltato in diretta venerdì 30 aprile 2021, sono le 20 e un minuto. Per chi sta ascoltando la replica sul nostro consueto podcast settimanale, su qualsiasi piattaforma podcast voi abbiate sottoscritto il nostro podcast, appunto, buon ascolto, rimanete sintonizzati e ci sentiamo alla prossima trasmissione, al prossimo podcast, alla prossima diretta. Rimanete con noi.

La domanda di Maharaj Parikshit sul perché i giovani pastori avessero mantenuto il silenzio intorno alla morte di Agassura per un anno intero ispirò Sukadeva Goswami a continuare il racconto dei divertimenti del Signore. Così rispose all'imperatore: caro re, le tue domande danno una freschezza ancora più intensa ai divertimenti sublimi di Krishna. Il Bhakta, per natura, offre costantemente la sua mente, le sue energie, le sue parole e il suo udito all'ascolto e al canto delle glorie di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna, e per chi si assorbe in questo ascolto, in questo canto, il soggetto non è mai monotono o antiquato. La differenza tra i discorsi spirituali e quelli materiali consiste proprio nel fatto che questi ultimi appassiscono e non si può ascoltarli senza provare ben presto il desiderio di variare, mentre i primi sono definiti Nityanava Navayamana, cioè il canto e l'ascolto delle glorie del Signore Supremo non annoiano mai, bensì conservano la loro freschezza facendo perfino sviluppare un ardente desiderio di praticarli sempre più. È dovere del maestro spirituale rivelare gli aspetti confidenziali della spiritualità al discepolo sincero e desideroso di apprendere. Così, Sukadeva Goswami inizia a spiegare a Re Parikshit la ragione per cui durante tutto un anno nessuno ricordò l'uccisione di Agassura. Ucciso Agassura e salvati i suoi amici dalla bocca del mostro, Shri Krishna li condusse sulle sponde dello Yamuna e propose: cari amici, ecco un luogo piacevole per far colazione e giocare su questa sabbia fine. Sulle acque della Yamuna i fiori di loto sono sbocciati meravigliosamente e il loro aroma si diffonde ovunque. Tutti intorno il canto degli uccelli e il grido dei pavoni che si armonizzano e si rispondono tra il fruscio delle foglie rendono ancora più incantevole questo paesaggio di alberi. Fermiamoci qui a fare colazione. Ormai si è fatto tardi e abbiamo fame. I vitelli resteranno vicino a noi, si disseteranno nelle acque della Yamuna e mentre noi calmeremo la nostra fame potranno brucare l'erba tenera. Alla proposta di Krishna, i piccoli pastori si sentirono pieni di gioia ed esclamarono: sì, sediamoci tutti qui e facciamo colazione. Poi lasciarono che i vitelli brucassero liberamente. Seduti a terra in circolo, cominciarono ad aprire i sacchetti con le provviste portate da casa. Poggiarono il loro fagottino sui fiori, foglie e cortecce d'albero raccolti qua e là e gustarono la colazione in compagnia di Sri Krishna. Egli era seduto al centro e tutti i visi erano rivolti a lui. Così, mangiando, i giovani pastori provavano un'estasi continua nel vedere il Signore che sembrava il cuore di un fiore di loto circondato dai suoi petali. Durante il pasto, ognuno dei ragazzi manifestò un differente tipo di relazione con Krishna e in uno scambio di scherzi tutti provarono un grande piacere nello stare insieme. Mentre prendeva con gioia il suo pasto, Sri Krishna fece scivolare il suo flauto nella cintura e il corno e la canna nella piega sinistra del vestito. Nella sua mano sinistra, tra le dita delicate come petali, teneva un pezzetto di dolce fatto con yogurt, burro, riso e pezzi di frutta. Dio, la persona suprema, lui che accetta i frutti di tutti i grandi sacrifici, rideva e scherzava in compagnia dei piccoli amici di Vrindavana. Dall'alto dei pianeti celesti, i Deva contemplavano la scena. E quei giovani pastori vicini alla persona suprema erano semplicemente immersi nella felicità spirituale. Nel frattempo, i vitelli che pascolavano là intorno si inoltrarono nella foresta al richiamo dei teneri germogli e scomparvero alla vista. Quando i giovani pastori se ne accorsero, preoccupati, gridarono subito: Krishna! Shri Krishna è il carnefice della paura personificata. Tutti temono la paura personificata, ma la paura teme Krishna. Così, gridando il nome di Krishna, i giovani pastori trascesero subito ogni paura. Nel suo grande affetto per loro, Krishna non volle che i suoi amici interrompessero il loro piacevole pasto per andare a cercare i vitelli. Amici miei, non è necessario che interrompiate la colazione. Continuate pure a divertirvi. Andrò io a cercare i vitelli. E si mise subito alla loro ricerca. Sulla montagna e nella foresta, egli frugò nelle caverne e nei cespugli, ma invano. Si ricorderà che alla morte di Agasura, mentre i Deva osservavano la scena con grande stupore, Brahma, nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico di Vishnu, era venuto anche lui a contemplare l'impresa prodigiosa. Com'è possibile che un piccolo ragazzo come Krishna potesse compiere tali prodigi? In realtà, Brahma sapeva che quel piccolo pastore non era altri che Dio, la persona suprema, ma nel desiderio di assistere ancora ai suoi divertimenti gloriosi, rapì prima tutti i vitelli, poi tutti i giovani pastori, portandoli lontano. Così Shri Krishna non riuscì a trovare i vitelli nonostante tutte le sue ricerche, e quando tornò sulle sponde della Yamuna, dove aveva lasciato i suoi amici a far colazione, una sorpresa lo attendeva: anche i pastorelli erano scomparsi. Nella sua forma di giovane pastore, Shri Krishna appariva molto piccolo in confronto a Brahma, ma poiché era sempre Dio la persona suprema, non ebbe difficoltà a intuire cosa era accaduto e subito pensò: Brahma ha rapito tutti i pastori e i vitelli. Ora, se tornassi da sola a Vrindavana, quale dolore per tutte le madri! Così, per far felici le madri e per convincere Brahma della propria supremazia divina, Shri Krishna, la persona suprema, si moltiplicò subito in altrettanti pastori e vitelli. I Veda affermano che Dio, la persona suprema, si moltiplica grazie alla sua energia in tutti gli esseri viventi. Nulla di straordinario per lui, dunque, moltiplicarsi in tanti pastori e vitelli. Così Krishna assunse l'identica fisionomia dei suoi giovani amici, differenti l'uno dall'altro nel corpo e nel viso, ma anche nel vestito, negli ornamenti, negli atteggiamenti e nelle attività. Infatti, ciascuno ha gusti differenti. Come un'anima individuale, ogni individuo si comporta e agisce in un particolare modo. Ma Krishna si moltiplicò in modo da assumere la forma e la personalità esatta di ciascuno dei pastori, e altrettanto fece per i vitelli, anch'essi differenti in dimensione, colore, carattere, eccetera. Shri Krishna poté agire così perché ogni cosa deriva dalla sua energia, come insegna il Vishnu Purana. Parasya Brahmanam Shakti. Si tratti della materia o degli atti compiuti dagli esseri, Qualsiasi cosa osserviamo nella creazione cosmica è una semplice manifestazione delle energie del Signore, come calore e luce sono le manifestazioni del fuoco. Moltiplicatosi nei ragazzi e nei vitelli, con i loro rispettivi caratteri e circondato da queste emanazioni di se stesso, Krishna rientra a Vrindavana. Gli abitanti erano all'oscuro di tutto. Varcati i limiti del villaggio, i vitelli raggiunsero le loro stalle e i ragazzi tornarono dai genitori nelle rispettive case. Prima ancora di vederli, le madri sentirono vibrare i loro flauti e si affacciarono sulla soglia per accoglierli con il loro abbraccio. Tanto grande era il loro amore che il latte sgorgava dal loro seno ed esse lo offrirono subito ai loro bambini. Ma questa volta il latte non andò veramente ai figli, bensì a Dio, la persona suprema che aveva preso la loro forma. Per le madri di Vrindavana questa fu una nuova occasione di nutrire la persona suprema col proprio latte. Questo privilegio dunque non toccò soltanto a Yashoda, ma in questa occasione anche a tutte le gopi anziane. I ragazzi si comportarono con le loro madri come d'abitudine e all'avvicinarsi del crepuscolo esse li lavarono, li decolarono con il tilak e ornamenti vari e li nutrirono a sazietà come solevano fare dopo una giornata di lavoro. Le mucche, che si trovavano lontano nei pascoli, calata la sera rientrarono nelle stalle da dove lanciarono i loro muggiti per chiamare i vitelli. E come essi accorsero, le mucche si misero a leccare i loro corpi. Tra le mucche e i vitelli, le gopi e i figli, i rapporti rimasero invariati. Anzi, l'affetto per la rispettiva prole aumentò senza una ragione evidente. Fenomeno naturale questo, sebbene i vitelli e i ragazzi che avevano davanti non fossero la vera prole. L'amore delle mucche e delle gopi anziane di Vrindavana era più grande verso Krishna che verso la propria prole. Perciò, in quell'anno, accadde che l'amore per i loro vitelli e per i loro ragazzi si intensificò fino a uguagliare l'amore che provavano per Krishna. Per un anno intero Krishna si manifestò come i vitelli e i giovani pastori e i pascoli furono popolati da lui soltanto sotto queste forme. Come insegna la Bhagavad Gita, l'anima suprema, emanazione di Krishna, è situata nel cuore di ciascuno. Ma in quella circostanza, per un intero anno, invece di manifestarsi come anima suprema nel cuore dei vitelli e dei pastori, il Signore si moltiplicò per diventare egli stesso i vitelli e i pastori. Un giorno, portando al pascolo i vitelli nella foresta, Krishna, Balaram e i giovani pastori videro qualche mucca in cima alla collina Govardhana. Di lassù, le mucche poterono subito accorgersi dei vitelli che pascolavano in basso nella vallata e si lanciarono giù dalla collina galoppando senza neanche curarsi del terreno aspro e sassoso. Tanto intenso era l'affetto per i loro piccoli. Raggiunti i pascoli, si avvicinarono ai vitelli con le mammelle piene di latte e con la coda in aria. Già mentre scendevano per la collina, il loro latte gocciolava sul terreno. Tanto era intenso l'affetto materno, che quelli non fossero i loro vitelli. Infatti, i vitelli che pascolavano ai piedi della collina Govardhana erano più grossi e nessuno si sarebbe aspettato che bevessero direttamente il latte dalle mammelle delle mucche perché erano soddisfatti dell'erba dei pascoli. Invece, le mucche accorsero e presero a leccare i loro corpi mentre i vitelli bevevano il loro latte. Era come se una grande catena d'affetto unisse le mucche e i vitelli. Le mucche sono sorvegliate dagli uomini e i vitelli dai giovani ragazzi e per quanto possibile le mucche vengono tenute lontane dai vitelli perché questi non bevano tutto il loro latte. Perciò, quando gli uomini che pascolavano le mucche sulla collina videro le loro mandrie disperdersi lungo i pendii della collina Govardhana, cercarono di trattenerle e impedire loro di raggiungere i vitelli. Ma invano. Allora, nell'amarezza di aver fallito, si sentirono vergognosi e irritati, rammaricandosi della loro sfortuna. Ma quando discesero e videro i loro figli prendersi cura dei vitelli, un intenso affetto li pervase all'improvviso. Era sorprendente. Gli uomini erano scesi amareggiati, frustrati e addirati, ma appena videro i loro figli, sentirono il cuore fondersi nell'affetto e la collera e l'insoddisfazione svanire. Esprimendo il loro amore paterno, presero i bambini tra le braccia e li strinsero a sé con grande tenerezza, respirarono l'odore dei loro capelli e si inebriarono della gioia di essere in loro compagnia. Poi ricondussero le mucche in cima alla collina Govardana, ma per tutto il tragitto non smisero di pensare ai loro figli e dall'affetto i loro occhi si riempirono di lacrime. Balaram notò quell'affetto eccezionale, ingiustificato in quel momento, tra le mucche e i vitelli e tra i padri e i figli, e se ne chiese il motivo. Sembrava proprio che gli abitanti di Vrindavana e le mucche amassero la loro prole di un sentimento molto simile all'amore che sentivano per Krishna. Balaram definì sovrannaturale questa prodigiosa manifestazione d'affetto e attribuì questo meraviglioso cambiamento a qualche potente uomo oppure a un deva. Infine concluse che questa metamorfosi sovrannaturale poteva avere come origine solo Krishna, che egli sapeva Dio, la persona suprema. Non è che opera di Krishna, e neppure io potrei frenare i suoi poteri sovrannaturali. Ci informa sulla longevità di Brahma. 12 delle sue ore corrispondono a 1000 volte la durata totale di 4 ere, cioè 4.320.000 anni per 1000. Un momento di Brahma equivale a uno dei nostri anni. Così, dopo un momento del suo tempo, Brahma ritornò per divertirsi degli effetti prodotti dal rapimento dei ragazzi e dei vitelli. Ma aveva anche paura, perché sapeva di scherzare col fuoco. Krishna era il suo maestro e lui, per dispetto, gli aveva fatto uno scherzo. Per questo, trovandosi in ansietà, non era rimasto lontano a lungo. Di ritorno, dopo un breve istante, vide tutti i ragazzi e i vitelli che giocavano con Krishna esattamente come prima. Eppure era sicuro di averli rapiti e poi addormentati con i suoi poteri sovrannaturali. Brahma si mise a riflettere. Ho rapito tutti i ragazzi e i vitelli. Penso perfettamente che essi stanno ancora dormendo. Com'è possibile che ora un gruppo identico di ragazzi e di vitelli stia giocando con Krishna? Sono forse sfuggiti all'influsso dei miei poteri sovrannaturali e hanno continuato a giocare con Krishna per un anno intero? Brahma cercava di capire chi fossero e come avessero potuto sfuggire all'influsso dei suoi poteri, ma non ci riuscì. In altre parole, rimase lui stesso vittima dei suoi poteri sovrannaturali che apparivano come neve nelle tenebre o lucciole nella luce del giorno. Al sole, la neve in cima a una collina o sul terreno brillerà di un certo splendore e nell'oscurità della notte la lucciola mostrerà il suo relativo potere di rischiarare. Ma di notte la neve non ha nessun riflesso argenteo, come di giorno la lucciola nessuna capacità di illuminare, o una lucciola di giorno. Un uomo dotato di poteri sovrannaturali, che desideri ostentarli davanti a un altro più potente di lui, non rivelerebbe che la propria debolezza. Perfino un personaggio grande quanto Brahma diventò ridicolo quando volle esibire i suoi poteri in presenza di Krishna. Perciò si sentì confuso sulla loro natura. Per convincere Brahma che quei vitelli e quei ragazzi non erano gli stessi di prima, Krishna, da tutte quelle forme che aveva assunto, si trasformò in altrettante forme di Vishnu, dimostrandogli così che i giovani pastori e i vitelli stavano ancora dormendo sotto l'influsso di Brahma e che quelli che lui vedeva ora al loro posto erano tutte emanazioni dirette di Krishna o Vishnu. Vishnu emana da Krishna e furono forme di Vishnu quelle che apparvero davanti a Brahma. Blu di carnagione, indossavano abiti gialli, avevano tutti quattro braccia e la mazza, il disco, il fiore di loto e la conchiglia tra le mani. Perle, orecchini e ghirlande di fiori meravigliosi ornavano le loro teste coperte di caschi d'oro splendenti di gioielli. Sui loro petti spiccava il marchio del Srivatsa, il loro collo era liscio come una conchiglia. Di braccialetti e altri ornamenti erano decorate le loro braccia e di gioielli tintinnanti le loro gambe. Alla vita avevano campanellini d'oro e alle dita anelli con pietre preziose. Brahma vide inoltre che il corpo di Sri Vishnu, dai suoi piedi di loto fin sul capo, era tempestato da una pioggia di freschi boccioli di tulasi. E queste forme di Vishnu apparivano tutte meravigliosamente belle, belle di una bellezza spirituale, con un sorriso che ricordava il fulgore della luna e lo sguardo i primi raggi del sole. Semplicemente con quello sguardo, esse si rivelavano come la fonte della creazione e del mantenimento dell'ignoranza e della passione. Vishnu rappresenta la virtù, Brahma la passione e Shiva l'ignoranza. Ma poiché Vishnu mantiene ogni cosa nella creazione cosmica, egli crea e mantiene innumerevoli altri Brahma, innumerevoli Shiva e Deva, e perfino esseri insignificanti come le formiche o i minuscoli fili d'erba, in breve tutti gli esseri mobili e immobili che danzavano intorno a Sri Vishnu al ritmo di varie musiche, offrendo tutti la loro adorazione a lui. Brahma realizzò che tutte quelle forme di Vishnu erano complete, che possedevano sia la perfezione detta anima, che può farci diventare piccoli come l'atomo, sia quella che può farci assumere dimensioni infinite come la creazione cosmica. Tutti i poteri sovrannaturali di Brahma, di Shiva, di tutti i Deva e i 24 elementi della natura materiale si trovavano interamente rappresentati nella persona di Vishnu, sotto la cui influenza tutti i poteri sovrannaturali subordinati a lui erano impegnati nella sua adorazione. Tutti gli offrivano il loro triguna. Brahma realizzò inoltre che Sri Vishnu è la fonte di ogni verità, di ogni sapere e di ogni felicità, l'unione dei tre aspetti dell'assoluto, l'eternità, il sapere e la felicità, e l'oggetto di adorazione dei seguaci delle Upanishad. Brahma realizzò inoltre che tutte quelle differenti forme di ragazzi e vitelli si erano trasformate in altrettante forme di Vishnu, non attraverso un potere come quello che può esibire uno yogi o un deva. Quei vitelli e ragazzi trasformati in Vishnu Murti o forme di Vishnu non erano manifestazione della Vishnu Maya o l'energia di Vishnu, ma erano Vishnu in persona. Vishnu e la Vishnu Maya sono paragonati rispettivamente al fuoco e al calore, che è un attributo del fuoco, ma non è il fuoco in sé. Le forme di Vishnu manifestate davanti a Brahma non sono paragonabili al calore, bensì al fuoco, perché tutte erano Vishnu stesso, vero? Eppure avendone l'aspetto non diffondono né luce né calore. Invece, ciascuna delle forme che Krishna assunse era Vishnu stesso, in tutta la pienezza delle sue qualità. Vishnu è Satya, tutta verità, Jnana, tutto sapere, e Ananda, tutta felicità. Il maestro della dea del sapere, Brahmaji, che è considerato come la più alta autorità in materia di conoscenza vedica, rimaneva perplesso, incapace di comprendere le straordinarie potenze manifestate da Dio, la persona suprema. Nessuno nell'universo materiale può capire gli infiniti poteri sovrannaturali del Signore Supremo, neppure un grande personaggio come Brahma, che non solo non riuscì a capire le potenze che Krishna manifestò davanti a lui, ma diventò confuso soltanto a vederle. Di fronte all'incapacità di Brahma di comprendere anche solo il modo in cui il Signore manifestava la potenza di Vishnu trasformandosi in vitelli e giovani pastori, Krishna fu mosso a compassione. Così, mentre manifestava pienamente la sua emanazione di Vishnu, d'improvviso egli calò sulla scena il sipario della sua yoga maya. La Bhagavad Gita afferma che Dio, la persona suprema, si cela alla nostra vista dietro il velo di questa yoga maya, che lo lascia però intravedere parzialmente. Invece, ciò che copre completamente la realtà è detto Mahamaya, o energia esterna, e impedisce all'anima condizionata di capire il Signore Supremo che è situato al di là della creazione cosmica. Brahma non è un essere comune, è di gran lunga superiore a tutti i Deva, tuttavia non poteva accedere alla comprensione dei poteri del Signore Supremo. Perciò Krishna si astenne volontariamente dal manifestarglieli ancora e stese il velo della sua yoga maya, affinché non sprofondasse sempre più nella sua perplessità. Immediatamente Brahma scese dal grande cigno che lo trasportava e davanti al Signore cadde a terra come un bastone d'oro. I Vaishnava usano il termine Dandavat a indicare l'offerta di omaggi. Questo termine significa cadere come un bastone. Infatti, i propri omaggi a Vaishnava superiori vanno offerti prosternandosi rigidi come un bastone. Così, per mostrare il suo rispetto al Signore, Brahma cade davanti a lui come un bastone, e poiché la sua carnagione è dorata, somigliava a un bastone d'oro ai piedi di Sri Krishna. Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.